passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Dove, Parenzo? Dove siamo? Dove ci troviamo? Nord Camp, Lago di Iseo. Cos'è? Mi chiedi? Nord aspetta Camp. Che finisca. Lago di Iseo, questa è una manifestazione voluta dall'onorevole Letta, Enrico. Enrico Letta, sì, beh, Enrico, certo. Letta, sì. No, ma l'altro non è nemmeno onorevole, credo. No, non è deputato. Sì, non è deputato. No. Correggimi. È lo zio. È lo zio, però. Dunque, pesa. Ma chi abbiamo qui? Scusa. Chi abbiamo Fedele qui? Confalonieri. Presidente di Mediaset. Ma no. È lei? È lui, è sì. Lei. Ma no, ma lui in persona. No, io non lo posso toccare io. Vabbè, lo tocco, sì. Sicuramente. Buonasera, benvenuta. Felice di essere. Grazie. Essere punto dalle danzare. Presidente, iniziamo da una cosa leggera. Il Milan, che poi leggera non è. Scherziamo. È la più pesante di tutti. Quanto è importante per lei il tifo? Eh beh, quello che ti cambia la giornata di domenica o di sabato adesso, o anche di venerdì, o anche di lunedì, perché ormai tutti i giorni si gioca. Sì. Io... Lui non capisce nulla di calcio. No, penso. Nulla, zero. È questo grave difetto, niente. Sono non sa nemmeno, non sa nulla. Cretino, senza io credo niente. Che il vero welfare sia il pomeriggio della domenica, la sera della domenica o del sabato, quando la tua squadra vince. Il vero ammortizzatore sociale, per chi non avesse capito la parola welfare. No, welfare è qualcosa di più, è uno stato di benessere, uno stato di... O di malessere, no, però. O di malessere, no, quello sì. Per cui non quando, è tanto welfare. Quando, no, però io ho detto se la tua squadra vince. Se la tua squadra Il contrario, se la tua squadra ha perso. Anche per lei è così? Cioè le cambia? Sì. Le cambia ma da giornata. Quando ero ragazzino, che ha 7-8 anni, ho scoperto che c'era il Milan. Allora... portiere si chiamava Rossetti, adesso si chiama Abbiati, c'era un terzino che si chiamava Gratton. La Milan è più importante per lei della musica classica? O della politica? No, la politica che c'è, mica la politica. Però è la musica è un'altra cosa. La musica? La musica, lasciamo stare, non si scherza sulla musica. Sono due emozioni. Ti riempie la vita, è la tua vita. Sì, sì. Il cibo. È il cibo. Cibo per lo spirito. Capito? Sì. Anche per te il cibo? No, sì, mi piace molto mangiare, andare al cinema, lo svago, insomma, i momenti che ho per me. Come sta vivendo questa rimonta dell'Inter, lei? Con angoscia? Ma io le dirò che, insomma, abbiamo giocato male due partite, ma non è che loro hanno fatto miracoli. Io ho visto le ultime due partite dell'Inter, non mi hanno particolarmente impressionato. Il Mani di Ibrahimovic è uguale a quello di... No, ma questo non... Guardi, il tifoso sul momento... si arrabbia, impreca, sì. Eccetera, eccetera. Poi, però, in generale si presume, ma io credo che sia così: che il tifoso capisce di calcio, quindi sa benissimo che non è un errore arbitrale che ti fa vincere o perdere una partita. Perché se tu hai la squadra forte, vinci. Poi ci vuole anche un po' di fortuna. La fortuna può consistere in un palo, può consistere in una grande parata, può consistere in un tiro sbagliato che era facile e può consistere anche in un arbitro che fa una svista. Cioè io ho iniziato un'intervista con Fedele Confalonieri, sono orgogliosissimo di questo, sul calcio, sì, parlando di quello che Berlusconi, mondo, televisione, la Libia, il calcio, ti rendi conto? Questa è la zanzara, dobbiamo un po' sparigliare. Ma no, diciamo perché il calcio è una cosa importante in questo paese. Ieri, forse credo, più della politica. Credo ieri, Pier Silvio Berlusconi... che lei conosce naturalmente molto bene. Sì, mi pare. Il papà lo conosco. Il papà, il figlio un po' meno. Figlio ci lavoro. Ci lavora solo. Ma lo conosco, come fosse mio nipote. Ha detto che Balotelli è uno da Milan, anche secondo lei poi finiamo sul calcio, eh? Tecnicamente potrebbe anche essere, però è tanto giovane, insomma, per adesso. Non è ancora da Milan. No, insomma. Non è ancora da Milan. Il Milan non... Cioè lei l'anno prossimo non ce lo vede. Sì, ma Milan. Non dimentichi che il Milan ha tre grandissimi attaccanti. Più un quarto in restauro, sì. Che è Pippo Inzaghi, che è un grandissimo attaccante, sì. E più un attaccante non proprio una punta, come si dice tecnicamente, grande che è Cassano. Sì. Ragazzi, dall'inizio... Per fare l'ospite a controcampo, lei. No, lì c'è Mughini, che è bravo. Che non c'è più, poi, dall'altro. Ah, non c'è più. No, ora c'è Cruciani a controcampo. La informiamo sui palinsesti. Senta, ma il dunque non ce lo vedrebbe l'anno prossimo a Milano. Ma non ce lo danno poi neanche. Niente. Sta al Manchester City. Non ce lo vede. E i comportamenti, i suoi comportamenti sono da Milan? Ma comportamenti, lei dice... Falli, espulsioni, vita notturna. Vabbè, ma c'erano anche Sivori, è stato uno dei più grandi giocatori che ha giocato in Italia, e non era un santo, insomma, al talento, al grande talento si può concedere anche qualcosa. Senti, l'ultima cosa, Leonardo da milanista è stato un grande tradimento per lei, il passaggio all'Inter? Guardi, la cosa che mi ha colpito di Leonardo è stato la dichiarazione: ho realizzato un sogno. Quello l'ha sentito come un tradimento? Non un tradimento, una parolona, non mi piacciono queste parole, però è qualche cosa che mi ha colpito negativamente. Anche perché ho molta stima per il Leonardo allenatore, anche come uomo, io l'ho conosciuto bene, una persona molto per bene, però questo insomma poi... Non andava molto d'accordo d'accordo con lui, con Silvio. Non lo so, non credo. Ma guardi che l'importante nel calcio è poi vincere, i risultati. Tu sei un bravo allenatore se vinci, sei un bravo giocatore se vinci. Oddio, anche nella vita è così, d'altra parte. Sai cosa ha detto oggi Berlusconi? Ha detto che governare, un po' scherzando con i giornalisti, governare e fare, volevano fargli fare qualche dichiarazione col microfono, governare e fare e non dichiarare. Beh, insomma, è un po' paradossale, no? Beh sì, ogni tanto telefona, no? Berlusconi delle trasmissioni, dichiara. Ogni tanto, ne ha fatte tre telefonate, è diventato... Ma ha fatto bene a farle quelle telefonate? Ma secondo me no, ma però io quando lo vedo dopo cose del genere dico: ma spegni la televisione. Cioè, una cosa... Invece lui sta davanti, là, incarognito. Ah, la chiama anche? Diciamo. Carognito. No, arrabbiato magari per qualche cosa che sente, no? Ragazzi, gliele fanno girare e come? Mettetevi nei suoi panni. Se vi mettete nei suoi panni, altro che telefonate, voi andate lì e forse fate di peggio. Vabbè, comunque il Presidente del Consiglio, qui c'è un ruolo, ce l'ha, no? È abituato che parla male di lui. A parte che è anche il suo bello di essere così nature e di essere come l'uomo, the man in the street, così ci diamo le arie e parliamo pure in però inglese. Lui sta lì davanti alla televisione e poi a un certo punto si arrabbia talmente tanto per le cose che sente che prende il telefono, lei non lo farebbe, insomma, lei... Fosse lei accanto, no, Silvio. No, bisogna vedere però, perché se dicessero di me quello che dicono di lui, magari farei anche di peggio. Però non lo dovrebbe fare. Ma sì, però se fossi ipocrita come la buona politica, il politically correct consiglia, farebbe il contrario. Di quello che siccome è trasparente, è natura. Ma lei lo consiglia ogni tanto? So che lei, ho letto in qualche intervista, lei dorme ogni tanto a Palazzo Grazioli. Come no? Dormo? Io ho una stanza. Ha una stanza Palazzo sua Grazioli, proprio. A Palazzo Grazioli, dove ho il mio pianoforte e sono a tre stanze dal cavaliere. Non ho mai visto cose strane. Tanto mai. Per non volevo assolutamente. Mai niente, mai. Ma ho visto il fumetto che aveva e quindi non ho mai visto. Non ho mai visto feste. Bunga, bunga, bunga, quello è Arco. Arco, la stanza cosiddetta del. Io non ho. Io non ho mai visto niente. E sono a, che poi lei va a dormire a presto, 30 no? metri. Io vado a dormire abbastanza presto. Non le piacciono le cene, queste cose qui? Alla feste. No, feste. Io soffro di ernia iatale e alla sera non posso mangiare molto, quindi mi è sconsigliato di fare cene. Forse però anche a Berlusconi, se lei gli fosse più vicino e ci fossero più consiglieri come lei vicino a Berlusconi, non uscirebbero anche tutte queste, no, queste cose, queste notizie che sono uscite, Sexgate... Forse è mal consigliato Berlusconi in questo momento. Sa che non afferro bene la domanda. Dove forse vuole. Sono no, la domanda è molto chiara. La vita privata di Berlusconi, secondo lei, doveva essere più sobria da questo punto di vista? Questa è la domanda. Guardi, oggi facevo una discussione con dei miei collaboratori, proprio più o meno perché parlavamo di queste cose, e non ricordavo il regista di un film intitolato Vizi privati pubbliche e virtù. Era la tragedia di Meyerling, no? Sì. Ecco, nel passato c'è stato di quelle cose. Lì c'era addirittura degli ermafroditi. Beh, questo non toglie che uno possa avere commesso degli errori nel presente. Ma questo di commesso degli errori. Ma i reati, secondo lei, esistono quelli che. Ma non parliamone neanche, dai. Non esistono ma reati. Non esistono reati, dai. Per cui la Boccasini che fa? Perseguita Berlusconi? Beh, ma insomma, ha avuto 26 o 27. Processi, ma o sei Al Capone o sei evidentemente un perseguitato dalla giustizia. E dunque in questo caso anche dalla Boccasini, da Forno, da San Germano. Ma sicuro. E poi dopo, lei non è una novità, è 17 anni che lì, ma lei lo sa che il giorno dopo del famoso discorso l'Italia è il paese che amo, eccetera, eccetera, sono partiti le accuse di mafia, è partito un procedimento a Palermo, anzi forse a Caltanissetta credo, sul Berlusconi che avrebbe pensato entrare in politica non nel 93, fine 93, quindi nel 94, ma addirittura nel 92, entrando nel 93, ergo le stragi potevano essere ascrivibili ispirate a lui. No, ascrivibili a lui. E ci provano ancora adesso, ogni tanto trovano qualche spattuzza. Stavolta con sesso. Ma il sesso. Col sesso con le donne. Ci fermiamo un attimo. Traffico. Siamo qui a Iseo in diretta, puntata speciale della Zanzara. 800 24 00 24. Più avanti i vostri interventi. Nostro ospite, il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, che ha scambiato Mughini con me, ma va bene lo stesso. Insomma, Mughini è un grandissimo giornalista. E poi lui è juventino. È juventino. Invece cioè, lei? Sono della Lazio, per cui non conto niente, no? Conto no, meno. Se battete l'Inter ci fate un piacere. Beh, l'anno scorso un favore l'abbiamo fatto. Ah, certo. Però quest'anno ci avete portato via. Al contrario, però l'abbiamo fatto, abbiamo aiutato l'Inter. Parliamo di calcio con Presidente Confalonieri. No, stiamo parlando di una cosa molto seria. Cioè, il comportamento di Berlusconi nella vita privata doveva essere più sobrio o no? Lei una volta lo paragonò a Mozart. In che senso? Cioè, no, come no, io ho detto che Mozart, prendiamo più alla larga. Ci sono dei geni che hanno dei picchi e hanno delle valli. Up and down, insomma. Molto, Mozart, che è forse il più grande musicista che sia apparso sulla faccia della terra, era uno che pizzicava il sedere alle servette o cose del genere. Era molto sboccato nel suo modo di parlare, nel suo modo di scrivere anche. Berlusconi così? No, Berlusconi non è sboccato. No, sboccato no, però... No, quello non lo fa, forse non ha bisogno. Però no, però la metafora è quella. Insomma, però può avere anche queste... Prima abbiamo parlato di vizi privati e pubbliche virtù, e quelli erano ben peggiori. Soltanto che Berlusconi non è un ipocrita. Certe cose le fa in modo trasparente. Da qui a pensare che sia uno che induce alla prostituzione questo o quest'altro. Prostituzione di minorile. Qui addirittura a buttargli addosso tutti i giorni, altro che poi dicono che fanno il fango, gli altri fanno il fango, paginate che escono, sappiamo bene come escono, insomma, lo chiamano circolo mediatico giudiziario, però è una cosa che fa un'inchiesta veramente... inventata, lei dice. Ma no, inventata qualcosa c'è, perché se ci sono le telefonate e così via, e poteva essere più prudente, poteva tutto quello che volete, quello poteva. Che a un certo punto uno venga spiato, tutti i suoi ospiti che vanno a casa sua vengano spiati come se fossero dei delinquenti, questo certamente non è il miglior esempio di giustizia di un paese e anche di condotta di una certa magistratura, che fortunatamente non è tutta la magistratura. Senta, ma secondo lei questa qua è la battaglia finale da questo punto di vista, questo processo che va ad iniziare tra poco tra una parte della magistratura e Berlusconi? Cioè ci sarà definitivamente uno che vince e uno che perde? Ma perché lei pensa che Berlusconi vada a casa? No, io non ho detto questo, sto dicendo dal punto di vista giudiziario. 20 anni, 30 anni. Ma giudiziario, in che senso? Se è innocente... Rispetto agli altri processi è qualcosa di diverso, no? Se è innocente lo assolverà. Lei pensa che se la caverà anche stavolta? Ma sicuro, ma anche perché non esiste questa cosa, dai. Ma adesso, a parte che questa minorenne, vabbè, lasciamo perdere. Ma nipote di Mubarak? Non lo so, magari pure. Adesso, no, non mi dica Presidente, che lei crede. Ma scusi, ma Mubarak può confermarlo? Beh, in questo momento no, diciamo. Non abbiamo la prova. Però no, però mi dica che crede a questa cosa qua della nipote di Mubarak, no. Presidente. No, non è possibile. Non è possibile che lei è così intelligente che non può credere che Berlusconi pensava che fosse la nipote di Mubarak. Che sia la nipote di Mubarak. Scusi, può darsi benissimo che gli avessero detto che era la nipote di Mubarak. E che lui relata refero, lo dico in latino così ha più, lei, solenne. Lei dice, vabbè, però lei non ci crede in fondo a questa storia. Ma io cosa devo credere? Ma perché devo crederci o non crederci? Non le importa, non è questo il punto. Non è questo, io volevo porre al Presidente. Però una persona di quell'età che va con una persona di 18 anni, va, che frequenta, diciamo, frequenta, non le fa un po' impressione come cosa, no? Perché i vecchi devono essere eliminati? No, devono mandarli nelle camere. Giorgio Gaber diceva: i vecchi bisogna ammazzarli da bambini. Beh, guarda, è una buona cosa. Ma comunque questo sarà il conflitto del futuro. Cioè? Perché se campano fino a 120 anni e prendono la pensione dai 65, quelli che hanno 30 anni li mettono nel camera gas. Contateci, voi che sarete vecchi quando ci sarà questo regime. Pensateci un po'. Ma Berlusconi politicamente è finito, secondo lei, o ha ancora qualcosa da dire? Politicamente. Ma ancora da cominciare, dai. Come cominciare? Sì, state buoni. Vedrete. Ma siamo buonissimi. Vedrete. Da cominciare addirittura. Sì, al Quirinale ce lo vede. Comincia a fare le riforme. Comincia a fare la riforma della magistratura, 94, farà altre riforme, come ne ha fatte di dal 94 dice che deve fare la rivoluzione liberale, qui ancora si è visto la rivoluzione poco. Liberale, ma ne ha fatte di cose, perché poi una il cosa, fatto di una cosa, una rivoluzione liberale di Berlusconi raccontata da Confalonieri in una parola, una riforma strutturale del paese. Intanto reggere un paese che ha il debito che abbiamo noi, la posizione che ha, una burocrazia come questa. Non è diminuito il debito perché ci sono delle abitudini in questo paese per cui la spesa non riesce a controllarla. Questo paese è ingovernabile da questo punto di vista. C'aveva ragione la buonanima lì, il signore. Buonanima diceva che era inutile. Non era difficile, era inutile. Probabilmente non siamo cambiati da allora. Però venire a dire che un paese che sta affrontando una crisi come questa, dove saltano per aria come le zanzare o vengono schiacciate, come le zanzare, paesi importanti come il Portogallo, come l'Irlanda, come la Grecia, e che tenga con i conti così, senza avere una... Questo è un merito, dice lei. No, ma senza avere problemi sociali. La riforma della giustizia è giusta, giustissima. Io credo che, sia la prima delle riforme, perché a un certo punto, ma quando si dice gli investimenti in Italia, non parliamo delle cose penali per cui poi dopo ci può essere pro domo sua, ma pensate che se uno fa un litigio e non ti vuol pagare, se a voi, il vostro datore di lavoro, ma quello però, non vi vuole pagare, passano 10 anni, come faccio a venire? Ma questa riforma qua non è che interviene sui tempi della giustizia, ma lasciamo perdere questa cosa. Come non interviene? No, sui tempi della giustizia interviene sì. Più su altri settori, eccetera. Senta, andiamo all'informazione, ma una domanda così brutale, ma Emilio Fede, è vero che va via da... Quando è che lascia il TG4? Ufficialmente, volevo una cosa... Lei lo guarda il TG4? Io lo vedo, sì. Sempre? Beh, sempre, c'ho anche da lavorare, come non sento sempre la zanzara, però la sento la zanzara quando la sento. Cattazio benevolente. Quando è estate. Vai. Ma no, è che Fede non si dice, dai Fede, adesso ma quando è che si può essere, si può scherzare su Fede, dire quello che si vuole, che è troppo figo. Ma deve andare in pensione o no? Momento, andare in pensione si vede, io... ho un'età per cui certi miei coetanei sono già in pensione da un po', ed ergo tendo anch'io a posticipare e a queste accuse di avere portato Falonieri, cosa posso fare? Hai ragione, sono troppo irruento, qui ci vuole la zanzariera, allora Emilio Fede in questi giorni ancora vi dimostra quanto sia bravo giornalista a gestire l'inchiesta giudiziaria, la Libia, tutte queste, la tempestia, perché è stato un grande inviato ed è stato un grande giornalista e lo è ma tuttore. nessuno dice che non è stato un bravo giornalista, professionalmente è un giornalista, ma a giugno andrà via o no? A giugno, perché giugno? Scusa. No, si diceva di luglio, quest'estate. Ma chi è? Indiscrezione di stampa, indiscrezione. Rumors di palazzo. Voglio dire. Vabbè che voi fate rumors con la zanzara. Però, ragazzi, lei sa, i giornalisti sono delle portinaie un po' meno istruite, no? Quindi il costruito sul chiacchiericino. Lo lascia a TG4 o no? Lo lascia a TG4 o no? Presto, Fede, lo lasciano, ma sarebbe normale, non sarebbe mica un crimine. Quando sarà il momento lo lascio. Per cui non è imminente la cosa. I due punti a giugno a casa Fede. No, adesso poi ci sono delle ristrutturazioni in corso, c'è una All News che si sta preparando, abbiamo fatto un'agenzia interna, insomma c'è una informazione che si evolve, adesso si parla della tecnologia, delle nuovi modi di fare, per esempio noi la nostra All News la differenzieremo da quella soltanto televisiva, perché pensiamo a un'informazione che va anche sul net. Ma Mentana lo riprenderebbe? È lui che non ha voluto venire. Qua c'è stato un momento in cui l'avevate di nuovo ripreso i contatti. Lui non ha voluto. Gli si è fatto un po' la corte e lui non ha voluto. Teniamoci adesso. Sempre un fuoriclasse lo considera lei. No? Certo, chi è il numero uno? Ma i numeri uno ce ne sono. Chi sono i numeri? La top 5 del presidente Confalonieri. Chi sono? Primo posto, Minzolini. Tra i giornalisti, chi apprezza Santoro. Ma perché mi fa fare la top 5? Perché lei è un uomo di grande uomo di televisione. Nei momenti in cui. Top 5 per esempio è Parenzo. Ma Santoro a media se te lo riprenderebbe? Secondo le circostanze. Secondo me è diventato troppo caro. È solo una questione di prezzo allora. Ma noi siamo una televisione commerciale, dobbiamo fare i conti. Costi, ricavi. Un bel anno zero su Mediaset. Ora hanno zero, può cominciare. Bam, bam, bam, bam, bam. Berlusconi se lo immagina, no? Invece lì, D'Alema. Abbiamo il giornale radio, poi l'ultima parte di questo speciale con il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri. 800 24 00 24, giornale radio. La zanzara, la zanzara, la zanzara, la zanzara. siamo qui in diretta da, dillo tu, che io me lo scordo di ancora, Lago di Iseo, Nord Camp, nella grande Lombardia. Sei deputato Lavurà, anche a dire Lavurà, questa cosa. Questa. A Lavurà, prova a dire Lavurà, tu che sei romano. Lavurà, Lavurà. No, io Lavurà. Abito ormai a Milano da più di 10 romano, anni. Tu sei un romano. No, affatto. Allora, andiamo, famo. Ma quando mai? Zero. Presidente, sono noi perché stiamo qui? Lombardo-Veneti, Presidente. Non lo sapevo che lo... Andiamo via. No, io sono romano, ma mi sono milanesizzato ormai. Ma andiamo via, ma togliamoci tutto. No, ma siamo nel lago. Siamo sul lago di Como, a Cruciani. Presidente, io sono diventato più milanese che romano in questi anni, le assicuro. Provi a dire vada via El. Vada via El. Vada via El. El Chap. Vada via El Chap. No, non so, come si dice invece, lo dica lei. No. Come no? Una parolaccia. Sempre che qui alla Zanzara le parolacce si possono dire. No, no, prima. No, no. No, non si possono dire. Vabbè. Si domanda Lago di Iseo, in diretta da Lago di Iseo. Lago di Iseo con il presidente di Medes Federico Confalonieri. Nel pomeriggio è arrivata questa notizia, presidente, so che lei ci teneva molto a saperlo. Tutto il pomeriggio, invece di pensare a questo convegno, diceva: quando esce la sentenza sulle giornate di Ibrahimovic? No. Cioè, sto scherzando, naturalmente. Riduzione da 3 a 2 giornate. Questo significa che comunque il derby lo salta. Vabbè, cercheremo di vincerlo anche senza. Ma meritava queste 3 giornate? No, secondo me non le meritava 3 giornate, però meritava la sanzione, perché insomma ha reagito in quindi modo... giudici sportivi meglio dei giudici della politica, diciamo, dei della magistratura ordinaria. Beh, insomma, sempre giudici sono, lei dice. Non ci vuole tanto. Addirittura. È stoccata di Confalonieri. Senta, ma quando esce la sentenza, non so, che la decisione definitiva sulla vicenda Mondadori, 700 milioni tra poco, no? No, spieghiamo a chi ci ascolta, però. Sì, vabbè, è una vicenda molto complessa, eccetera. Lodo Mondadori, risarcimento nei confronti della Cidi De Benedetti. Qualora questo gruppo di saggi dovessero decidere. Saggi, non so. Non so, saggi, di come vabbè, si chiamano? Di cerchiamo di non influenzare No, ma la Zanzara, collegio giudicante. Collegio giudicante. Non facciamo commenti. No comment su questo. Finché non esce la cosa. Finché non esce non possiamo dire nulla. Però se fosse una multa pesante, 400 una multa, insomma, un risarcimento pesante, no, meglio non dire nulla. Con meglio. Sei ma non si fa nella storia né la cronaca. Assolutamente. No. Invece è una certezza il fatto che la sua amata cultura ha riavuto, perché lei è un grande amante di musica. Musica, eccetera, ha riavuto i soldi con il FUS, no? Però no. Ha aumentato la benzina. Va bene? Va bene, secondo lei? Grande riforma liberale? A proposito di riforme liberali. Che c'entra la... Beh, no, insomma, la tasse, sempre tasse. Tagliare qualche ma si chiamano, tasse, ma si chiamano tasse. Accise, dai. Sempre tasse, capito, sono, perché si chiamano accise. Ma lei l'avrebbe aumentate le tasse. Siate precisi. Beh, però, sono tasse. C'è poco da fare. È un piccolo aumento di tasse, o no? Berlusconi in questo caso ha aumentato una tassa. Dove? No, non è così. Le accise, ha aumentato le accise sulla benzina. I radioascoltatori devono sapere che Confalonieri ti ha guardato dicendo: ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? Qual è che un po' è così. Però non potevano tagliare da altre parti, ad esempio, fare tutti questi sottosegretariati, auto blu, tagliassero lì anziché aumentare, cioè giusto finanziare la cultura. Ma magari potevano finanziare poi fino a un certo punto. Beh, comunque dare i soldi anche lì, dare i soldi è giusto averli dati, però ci sono anche tanti sprechi, diciamolo francamente. Forse bisognerebbe, e questo è il grande problema, che più che tasse o altro bisognerebbe cercare di spendere meno. Però da chi si comincia? Da chi? Gli inglesi hanno un bel, no, gli americani, no? NIMBY. Not in my backyard. Che era bella, che non nel mio cortile. Nessuno vuole avere qualcosa nel suo cortile, qualcuno nel suo cortile. Comunque, che caro Lorenzo, sta frustata l'economia promessa da Berlusconi qualche mese fa. Fine, per adesso non si è visto nulla. Ma cosa vuoi frustare? Ma anche nel mondo, ma cosa si frustra? Dunque, questa tutta uno dice: no, uno dice che già in periodi di crisi così grande come questa, già tirare avanti come si sta tirando avanti, perché poi insomma, l'anno scorso abbiamo fatto più 1,2-1,3 del PIL, non sono poi risultati, date le condizioni, dato il debito che abbiamo, così negativi o no? Ma chi è che comanda lì al governo, Tremonti o Berlusconi? Perché sembra che Tremonti decide tutto, dice: no, lì non puoi tagliare, no, lì non puoi. Chi è più forte? Tremonti o Berlusconi? Tremonti fa il suo e lo fa bene, e Berlusconi lo avalla. Ma chi ha traino? No, chi è il presidente del Consiglio? Lui, dai ragazzi. Cioè, è ancora lui che... Tremonti. Cos'è quello ancora? È ancora nel senso con Tremonti. Ancora vuol dire ancora un'altra volta. Ancora un'altra legislatura. Un'altra legislatura. In quel senso. Vede, in inglese c'è till or yet. Il suo ancora era yet. Sì. E invece non sarà l'ultima legislatura di Berlusconi questa qua, secondo lei? Ma il Quirinale ce lo vede? Ma il Quirinale... io si annoierebbe forse, no? Cosa fa? Cosa fa tutto il giorno? E poi a Quirinale deve andare uno che ha un passato magari nella Banca d'Italia o... vabbè, champagne. Non è adatto. Non è adatto. È unfit. Ma è unfit a Quirinale. Che è unfit un accidente. Questo non è nega troppo l'Economist, che lo leggo già io. No, ma è Economist per... o è Comunist quel giornale lì? No, Economist. Economist. Economist. Però sono, vede, sono giornali anglosassoni. Hanno il superiority non complex. Non capisco no, l'Italia. No, hanno il complesso di superiorità nei confronti d'Italia. Forse anche ha ragione, però. In qualche caso, perché in qualche caso. Ma perché sono ancora colonialisti come lo erano una volta. E io ricordo una bella poesia di Kipling, Rudyard Kipling, che dice: "Take up the white the burdens of the white man", prendi su il fardello dell'uomo bianco. E noi, questo parlava per l'India di cent'anni fa, cioè, e noi siamo considerati molto spesso come l'India di cent'anni fa, per loro. Senza fare. Scendiamo un po' nella torniamo sulla terra. Torniamo sul lago. Le chiedo una cosa: questo PDL, a questo PDL uno come Scajola servirebbe? Beh, Scajola è uno valido, è uno capace. Dunque, quindi dovrebbe tornare? Beh, dovrebbe tornare, ma secondo lei? Fa secondo a me lei? Delle domande, io cosa vuol che ne sappia? Scajola lo non è l'ultimo arrivato. Non è l'ultimo. Non sono l'ultimo arrivato, ma sono il terz'ultimo, il quart'ultimo. No, non so. No, ma dorme anche a Palazzo Grazioli. Quindi ogni tanto a Palazzo Grazioli perché è mio fratello. Silvio Berlusconi, ma a parte la parentela, gli dia un consiglio: riprenda Scajola al partito, via con questi tre coordinatori, Scajola o no? E poi? No, e poi? Ma, scusa, ma io ho un mestiere che mi dà soddisfazione, sì, ben retribuito tutto, sì, ma perché devo occuparmi di queste cose? Se però, come dice Berlusconi, Scajola è uno che... Uffe, lei fa il tuo mestiere, si dice in un linguaggio che lei non capisce. No, io ho capito benissimo, stavolta, ognuno fa il suo mestiere, giusto la traduzione? No, Uffe, il pasticcere. Ah, così. Pasticcere di una volta che era a metà fra il panettiere, il pasticcere e così via. Quindi io faccio il mio mestiere, faccio il pasticcere. Comunque ce lo vedrebbe di nuovo al partito o al ministero? Scajola è bravo, nel partito aveva lavorato bene a suo tempo, visto che non è indagato, che non ha problemi, per cui si era dimesso qualche mese fa, perché no? Ma è un perché no da uomo della strada che dice la sua al bar con due cari amici simpatici bevendo acqua minerale invece con bel bicchiere di champagne vino. No, champagne, ma possiamo anche bere vino rosso anche per vera. Esistono le toghe rosse, presidente Confalonieri? No, le toghe si mettono nero, no, mi pare. Le toghe rosse non esistono, sì, qualche toga rossa esiste. Qualche toga rossa. Lo dice sempre Berlusconi. Berlusconi noi. Mica sono. Dice sempre Berlusconi, lei che ne pensa di quello che dice? Ma toghe rosse, secondo me, se non le avesse detto, sarebbe stato anche meglio, perché così li ha fatti arrabbiare anche di più, anche se pur lo sbaglia a dire toghe rosse, sbaglia a dire magistratura comunista. Io credo che la magistratura comunista sia un errore, perché la magistratura tutta non è comunista. Io credo che ci siano tantissimi, e ci sono tanti magistrati che fanno bene il loro mestiere, però qualcuno, anche qui diciamolo in inglese, opinionated, biased, tradotto per noi, è... che hanno dei pregiudizi oppure hanno delle ragioni politiche o altro nei confronti del Cavaliere, ci sia, e uno che fa quel mestiere lì di Presidente del Consiglio a fasi alternate, perché prima ha vinto, poi ha perso, eccetera, eccetera, che subisce 26 processi, la maggior parte poi, alcuni sono in corso, ma quasi tutti andati a buon fine, per direttamente oppure per prescrizione, che non è un favore all'imputato. No, vabbè, un bel accidente. Quando si dice la prescrizione è stato prescritto perché non hanno provato che io ero colpevole. Hanno fatto in tempo, anche perché ci sono state leggi che l'hanno accorciata. L'accorciata perché per loro stare per 25 anni nelle loro mani e così non ti mollano. Come più. Si scalda il presidente? L'ultima cosa, un flash: il migliore del centro-sinistra oggi chi è? Il migliore, secondo lei? Centro-sinistra, Enrico Letta. No, vabbè, perché è il padrone di casa qui. D'Alema? Togliamo Rigoletto, il migliore D'Alema. Renzi è il migliore in futuro? Ma Renzi non lo conosco abbastanza. D'Alema è ancora il migliore? Beh, D'Alema è uno molto intelligente, si sa. Di Pietro? Ma perché devo parlare degli altri, scusa? Si ferma. grazie Presidente. Di Mediaset, Federico Confalonieri, a dopo. Se ci lascia un affare, se ci lascia un affare, se fai le immersioni e rimani sott'acqua non ci rompi i coglioni, se ci lascia un affare, se ci Beh, caro Parenzo, questa è la canzone, che Berlusconi avrebbe cantato l'altra sera a cena. Pensa con chi? No, con chi? Con Scili e compagni. No, con Scili, ma va anche a cena con Scili nipoti. C'era con i responsabili. Preferivo le altre cene, diciamo. Le altre cene. La valigia è già pronta e te ne puoi andare. In ogni caso, naturalmente Palazzo Chigi ha smentito questa cosa. Sava Sandia. Berlusconi, governare, fare e non dichiarare, come abbiamo ricordato prima, a chi? Confalonieri. A Confalonieri, se n'è andato, peccato. È andato via, siete Confalonieri, è tornato a Milano. Berlusconi. Non avete ancora capito che governare è fare, non dichiarare. Se ci lasci un affare. Massimo del paradosso per Berlusconi, no? Uno che non. Un chiarificio permanente. Non è che si sottrae, a volte telefona anche no, alle trasmissioni, conferenze stampa, qualsiasi cosa. Vabbè. Poi c'è stato un duello questa mattina ad Agorà dal nostro amico Vianello. Come lotta Vianello? Lotta come un leone. Un siparietto tra uno scontro epocale tra due siciliani. Chi? Fabio Granata, sì, nostro ospite la settimana, sì. E Scilipoti, appunto. No, ma Scilipoti. Sentiamo, sento. Frazionato Scilipoti. È una storia che io potrei fare qua tre ore per parlare della tua storia di chi eri quando eri assessore alla regione Sicilia e che cosa hai fatto, certo, che sei stata la negatività della Sicilia, ma non voglio entrare in merito a questo, certo, perché ho posto un po' di che cosa hai posto, guarda la storia di chi eri, che cosa hai fatto e chi sono quelli che stanno accanto a te e chi sono coloro i quali si sono seduti accanto a te per tanti anni. Al suo collega, scrivi un libro, fammi il biografo. Ognuno ha la propria storia, il proprio percorso. Tu hai una storia che veramente i siciliani si dovrebbero ricordare a vita. Teniamoci ognuno alla nostra, la tua se la ricordano gli italiani, ma come una storia, meno male, anche una cronaca di basso profilo. Personaggi come te, il tema, il governo, il vero tema. Se ci lasci è un affare, c'è niente di male. Se ci lasci è un affare. Va bene, a proposito di Libia, della situazione in Libia. La Russia ieri sera, credo ad anno zero, sì, e sugli immigrati, a un certo punto Gino Strada gli diceva non avete umanità per i clandestini, e lui dice abbiamo portato gli immigrati in un posto bellissimo, ci andrei anche io insieme a Santoro, questo posto è Mineo in provincia di Catania, no? Sentite. Abbiamo portato ieri con la nave militare 500 persone in un villaggio che era dove abitavano le famiglie dei soldati americani di Sigonella, quindi un posto, glielo dico, bellissimo, dove andremo ad abitare benissimo anche io e forse persino Santoro, che è molto più però ricco scomodo di me. Se ci sentite dalla Tunisia, no? Diciamo così, è scomodo perché bellissimo poi, ma un po' scomodo, no? Non solo scomodo, ma da lì non si scappa, quindi lo dico a loro. Beh, insomma, voglio dire, posto bellissimo per gli immigrati. La crociera con la nave, le abbiamo preso come fosse una crociera. Ma magari è un posto bellissimo da vedersi, stupendo, in Sicilia, ci sarà il mare bellissimo. Per gli immigrati non sarà un centro di permanenza temporanea, no? Sì, sempre comunque una simil prigione, no? Ma beh, sì, una caserma comunque. Posto bellissimo. Andremo anche io a Santoro. Che è più ricco di me, ha detto, che è più ricco di me, che c'entra. 800240024, questa è... È la Zanzara. Per forza, su Radio 24. A quest'ora lo sai, c'è una polemica, sì, hai ragione, però perché meglio... lei è la sua trasmissione, perché lei deve sempre ripetere questa è la Zanzara, è perché ovvio, voglio distinguermi sempre, voglio sempre distinguermi. C'è stato oggi uno scontro furibondo tra Nichi Vendola, presidente della Regione Puglia, e il presidente della Regione Lombardia Formigoni. Ma questo non lo seguito, questo non lo seguito perché ha avuto da fare qui a moderare a Nord Cup, dove siamo, no? Camp. Nord Camp, dico di che Nord Cup, che Nord Camp mi ricorda Nord Camp, Nord Cup, Nord Camp, che è un convegno organizzato dall'associazione di Enrico Letta, che avremo fra poco il nostro ospite. Avviene? Sì, dopo le 8, dopo Enrico Letta? Il vice segretario del PD? Sì, non è Gianni Letta, no, è Enrico Letta. Clamoroso. Letta alla Zanzara. Ma è clamoroso, insomma, è un ospite importante. Ma non è clamoroso, adesso non esageriamo. Okay. Scontro Vendola Formigoni. Vendola. Questo federalismo nasce dalla predicazione antimeridionale ed è costruito su uno stereotipo malevolo che il nord laborioso e sano ha sulle proprie spalle il sud parassitario mafioso, e con questo stereotipo la Lombardia ha fatto per esempio a meno di confrontarsi col fatto che era ed è la regione più mafiosa d'Italia. Insomma, può dire uno che la Lombardia è la regione più mafiosa d'Italia? Ma questo non capisco, ma sono uscite... della sua polemica, direttore, scusi, direttorissimo. Ma e ieri c'è stata un'intervista a un magistrato sul Corriere della Sera che ci raccontava che insomma la capitale della 'Ndrangheta sta al nord. Non mi pare che Vendola abbia capito, detto cose ma così il distante. Governatore della Regione Puglia che dice non che ci sono degli insediamenti della 'Ndrangheta o della mafia al nord, cosa capitale che può... della 'Ndrangheta al nord, non è che ha detto no, che la Lombardia è la regione più mafiosa d'Italia, questo ha detto. Ma non intendeva, ma non intendeva certo i politici lombardi. E invece intendeva sì, senti quello che ha detto dopo, credo. Senti quello che ha detto dopo, perché fa riferimento a la Moratti e a Formigoni in un discorso che coinvolge anche i boss che girano negli ospedali lombardi, però mette in mezzo anche Formigoni stesso e la Moratti, via. Non abbiamo avuto la fortuna di vedere nei telegiornali nazionali il volto di Roberto Formigoni o di Letizia Moratti associati alle vicende di cronaca giudiziaria che raccontano quale sia il livello di pervasività dell'organizzazione 'ndranghetista che controlla le ASL, che ha i propri boss che circolano negli ospedali, che organizzano le riunioni negli ospedali, che ha un circuito di appalti che ruota attorno a tutte le pubbliche amministrazioni di questa regione. Ora, a parte che non si è capito niente da questo discorso molto confuso, ma al di là di questo si fa riferimento ad inchieste, i boss negli ospedali, certo. E va bene. Possiamo approfondire, sì, ma d'accordo, ma cosa c'entrano la Moratti e Formigoni in questo discorso? No, Moratti e Formigoni non c'entra niente. Non abbiamo avuto la fortuna di vedere nei TG i volti della Moratti e di Formigoni. Diciamo che il tema della mafia al nord non è mai stato affrontato, è stato sempre, come dire, evitato, ma esiste la mafia al nord. Sai come gli ha risposto? Sai come gli ha risposto Formigoni? Puoi immaginare, no? Lotta come un leone. Sì, adesso lo vado a ripescare, eh? Eccolo qua. Miserabile sotto effetto di droghe. No, così ha detto. Addirittura. Sì. Formidabile, no, miserabile, formidabile. Miserabile, no. Miserabile sotto effetto di droghe, questo ha detto. Beh, anche lui è un po' esagerato, no? È ancora più pesante, poi ti dirò il resto. Cioè, la mafia al nord c'è o no? Questo è il punto. Sì, per ma, forza, non è, ma certo che c'è, no. Ma non era il succo la capitale, del discorso la Lombardia, è la capitale fare... della 'Ndrangheta al Vendola. Nord. Questo l'ha detto dei magistrati. Sì, ma Vendola voleva fare un attacco politico a Formigoni, questa è la sostanza. Poi l'oggetto di vigilare sul proprio. Io poi vendo. Vigilare sul territorio lombardo lo ha chiesto anche la magistratura più e più volte su questa attenzione. Allora, Vendola è un miserabile, lo sapevamo e lo conferma, e fra l'altro ripete le stesse parole che ha detto 20 giorni fa, quindi probabilmente è sotto effetto di qualche sostanza. Anche qui bisogna poi mettere nel contesto, no? E poi, ancora più pesante, Vendola risponda spiegando come mai adesso non è in galera. Poi potrà dire qualcosa di una regione, la Lombardia, che è l'esempio per la sanità di tutti, si riferisce alle inchieste che hanno coinvolto l'ex assessore regionale tedesco. Ma gli ascoltatori, 800 24 00 24, Alessandro, provincia di Bergamo, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Io volevo parlare, anzitutto una premessa. Io la gente che sta nel Parlamento italiano, che cambia tacca, la obbligherei per legge a dare le dimissioni. Non si può fare, non si potrà fare mai. Lo so, perché non si potrà fare legge, mai. In automatico non si tirerà. Ma no, ma perché c'è la libertà di un deputato di cambiare idea, poi uno lo può criticare allora, politicamente, ecco, ma si può cambiare idee, si può cambiare anche gruppo parlamentare. Io lo trovo, certo, in alcuni casi un'assurdità, come allora, passare dall'Italia allora dei Valori ad appoggiare Berlusconi, ma non si può costringere qualcuno alle dimissioni, questo è il punto. No, ho detto quello, ho detto che automaticamente, senza che ci siano l'obbligo, deve andare via. Però la mia domanda allora a questo punto è: come mai nelle ultime elezioni tanta gente, tante liste non sono state elette perché non raggiungevano il quorum, e adesso ci sono nel nostro Parlamento partiti, gruppuscoli, tutto quello che volete, sigle, che non raggiungono il 2, l'1,5%, l'1%, e lo sbarramento lo portano al 4%? Che vuol dire, scusi, non no, ho capito. Voglio dire che non hanno il diritto di rappresentare gli italiani, tutto lì. Va bene, grazie. Emanuele dalla provincia di Piacenza, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Un ideale fiore di loto ai suoi piedi, perché è una trasmissione che merita sempre l'enfasi della meraviglia. Beh, insomma, adesso Emanuele ci fa arrossire. Volevo dire questo, che se non è possibile evitare che il calma, che la magistratura sia così politicizzata, sì, tanto varrebbe adottare paradossalmente come regola che l'entourage di Berlusconi, quello ministeriale o il suo entourage politico in genere, sia quantomeno inquisito, perché con una magistratura tanto politicizzata è assolutamente titolo di merito essere inquisiti. Vabbè, questa è una sua, graziosa provocazione, signor Emanuele. Cosa significa? Cioè, è un titolo di merito essere sotto inchiesta? Lei sta dicendo, siccome la magistratura è così politicizzata... Siccome la magistratura, quella di sinistra, che è l'unica che si occupa della politica e delle cose, perché... Vabbè, insomma, adesso questo non è che la magistratura sinistra, di sinistra si occupa della politica, ma che ci sono dei magistrati che fanno delle indagini sui politici che non sono di sinistra, insomma. No? Però guarda caso, quelli che non sono di sinistra... Ma non è vero, per esempio in Puglia l'assessore... degli inabili immobiliaristi e vengono assolti e non vengono giudicati. Sì, ho capito, ma lasci perdere. In Puglia, per esempio, l'assessore tedesco, che è del Partito Democratico, addirittura hanno chiesto l'arresto per lui. Per cui quelli che sono, che tipo di magistrati sono quelli? Mosche bianche. Non la sentiamo più. Antonio da Catania, buonasera. Fino a cioè, Antonio? Sì, pronto? Niente. Sì, dica. Buonasera. Buonasera. Sì, volevo fare un breve intervento. Avevo sentito prima la registrazione relativa alla presenza ieri di La Russa ad Anno Zero, la trasmissione. Sì, volevo sì. fare un resoconto anche per saperlo voi, dico per saperlo tutti. Io non sono né a favore né contro il governo, per capirci. Volevo Ma non ce ne importa niente a noi. Non è che bisogna specificare ogni volta, Parenzo, se uno è a favore o contro il governo. Certo, discutiamo delle cose. Non interpretare male le mie parole. Ma non nessuno interpreta male, Antonio. Ma lei non è che sia napolitano che parla, dobbiamo per carità, con tutto il rispetto. Ma non è che... Assolutamente, ha ragione. Vado al dunque. Il posto di cui si parla, Mineo, in particolare il villaggio di cui parlava, in effetti onestamente è un bellissimo posto, perché si ho capito, però se uno ci va in vacanza con la famiglia immagino, non per gli immigrati. Devo dirle il vero, le do una testimonianza diretta perché abito qui a Catania, quindi lo so, si tratta di una serie di ville accorpate che sono sempre state destinate ai militari della base di Sigonella degli americani, ecco, militari americani, quindi sono attrezzate sullo stile americano con il prato inglese, queste case bellissime, comunque molto carine. Detto questo, però, mi chiedevo come mai queste case vengono destinate, con tutto il sacrosanto rispetto, all'urgente esigenza di collocarvi gli immigrati, e non vengono date alle persone che vivono con poco reddito, con scarso reddito, che non hanno possibilità a Catania di acquistare un'abitazione. Sì, però Antonio abbia pazienza, adesso non possiamo fare la storia delle villette e di Mineo, qui il problema non è questo. Stavamo giocando, scherzando su una frase pronunciata ieri ad Anno Zero da La Russa, il quale ha detto: portiamo gli immigrati in un posto bellissimo. Sarà certamente un posto bellissimo, stupendo, con villetta a schiera, con la base americana, eccetera. Ma insomma, non è bellissimo per gli immigrati. In ogni caso, non è bellissimo. Certo, meglio lì che dentro una caserma stile Pinochet. Insomma, se proprio vogliamo. Io sì, sono d'accordo. Aggiungo una cosa rispetto a quello che si è visto ieri ad Anno Zero, una situazione squallida. Io credo che l'Italia non possa permettersi di non dare accoglienza dei poveretti che vanno comunque via da situazioni disastrose. Quindi io dico, chi di qualunque provenienza politica sia, chiunque, non si può ritenere che delle persone vengano, non lo so, trattate forse peggio degli animali. Io sono rimasto allibito, capisco le esigenze, però l'Italia è uno Stato democratico, dico, uno sforzo da parte di tutti, dico da parte di tutta l'Italia, per Vabbè. Poter accogliere, per poter sistemare queste persone, credo lo si debba fare, dico, siamo un paese sì, democratico. Sì, d'accordo, però tutti quanti non ce li possiamo prendere, questo sia chiaro, ci vuole uno sforzo da parte di tutti in generale, quelli che arrivano tutti non li possiamo prendere. 30 secondi, torniamo subito. Bene, Santoro, risposta a Ferrara sulla trasmissione dell'altro giorno in cui attaccava Santoro per la leggenda dei Magistris, via. Io dietro di me non ho l'ombra dell'Unione Sovietica, non ho l'ombra di Craxi, non ho l'ombra di Berlusconi, non ho l'ombra del Vaticano e nemmeno l'ombra della CIA. Faccio qualcosa, me ne assumo la responsabilità, racconto la storia. Ancora un Santoro contro Ferrara, chiedere scusa io, loro lo facciano per Previti. Invece che cosa sostiene Giuliano Ferrara? Che siccome un'inchiesta di Luigi De Magistris è stata archiviata, allora io dovrei chiedere scusa agli italiani. È come se io, insomma, il giorno in cui è stato condannato, per esempio, Previti per aver corrotto i giudici, fossi andato in televisione e avessi detto: ehi tu Giuliano, ehi tu Silvio, ah, vi rendete conto, è stato condannato in via definitiva Previti per corruzione, adesso dovete andare in ginocchio a Montevergine. Questo io non lo posso fare. Va bene. Sono le 19.48, siamo in diretta da Iseo, 800 24 00 24. Una serata ancora ricca, Mamma ricca mia. Di personaggi. Tra poco, con Falonieri, di tutto c'è stato. Tra poco ci sarà Enricoletta e una sorpresa, forse. Un altro personaggio a sorpresa. Forse. Michè, chi hai con te, Cruciani? No, ancora non lo so chi ho stasera. Vabbè, ancora non lo so. 800 24 00 24. Franco dalla provincia di Milano, buonasera. Buonasera. Franco? Buonasera, Cruciani. Sì, dica. Sì, te volevo dire una cosa. Io ho sentito con Falonieri e mi stavo chiedendo com'è possibile che l'amministratore delegato di una società importante è il presidente, veramente, comunque. Nel senso, è il presidente, ha una dimensione, svolge un'attività anche, gestisce l'informazione in Italia, un'informazione importante. Una volta che gli si fa presente che c'è una iniziativa del governo che aumenta le tasse, questo si premura nel dire: non dite tasse, ma dite accise. No, tasse, accise. E vorrei, io ho un'opinione, ma secondo voi una persona che si comporta in questo modo in una trasmissione pubblica, quindi si rivolge agli spettatori, agli ascoltatori, che tipo di persona è? È una persona seria, credibile? Oh, mi scusi Franco, adesso non siamo qui a difendere con Falonieri. Voglio dire, stiamo parlando di quello che ha fatto il governo, le tasse sulla benzina per trovare i soldi per la cultura, essendo con Falonieri un appassionato di musica, molto attento a questa questione che riguarda la cultura, e noi diciamo che è una tassa in più. Lui, insomma, era un po' scettico. Ha detto: usate la parola accise, è un'accisa. È chiaro accise. Che è una tassa. È una tassa, evidente, ma non è che voleva negare che fosse una tassa. Ma vi rendete conto che state dando un messaggio agli ascoltatori che la vostra è una funzione importante? Che messaggio stiamo dando? Scusi. A ridere e scherzare con quattro persone che conoscete. Ma è questo che facciamo ogni sera, veramente, abbia pazienza. C'è anche nella sigla scritto, per cui cioè, è scritto. Come insomma, passare al bar prima di tornare a casa a ascoltare la radio? È enunciato nella sigla, abbia pazienza. Franco, non ho capito che tipo di messaggio diamo poi, scusi, il messaggio l'ha sentito solo. Siete persone poco serie perché state avvalorando una. Che stiamo avvalorando? Scusi, per noi è una tassa. Il presidente detto che è una tassa. Ha scherzato. È tendenziosa ed è anche sporca. Sporca, tendenzioso. Beh, è evidente che è una Franco, tassa. Lei ha una valutazione di quello che è sporco e tendenzioso che va, a mio parere, leggermente corretta. Adesso non vorrei insistere su questo, però forse le cose sporche sono altre. Adesso stavamo dicendo a Confalonieri che quella sulla benzina è una tassa. Lui ha detto: siate più precisi, sono le accise. Giocava un po' su questa cosa delle tasse perché non voleva dire che Berlusconi in questo caso ha aumentato una tassa, credo che fosse questa. È chiaro tassa. A chiunque. Non c'è molto da discutere su questo. Franco, se lei poi ci vuole trovare un qualcosa di estremamente grave, ce lo trovi pure. Cosa le devo dire io? Sì, io lo trovo veramente grave. Va bene, ognuno trova grave tante cose. Funzione, ma lasci perdere noi. Noi siamo qui umili. Rendete conto della sua gravità. Va bene, non ci rendiamo conto della gravità. Marco da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Io chiamavo in merito alle dichiarazioni di Vendola, perché non so se sono sotto effetto di droga, però mi è sembrato di capirne un senso. Cioè, e quale sarebbe il senso, scusi? Cioè, secondo me la critica che faceva Vendola era che, essendo uno il sindaco e l'altro il presidente, che si sono sempre fatti vanto della sanità, e vedere che c'erano stati comunque questi problemi nella sanità, riferito alla 'Ndrangheta e altro, non vedere le loro facce in televisione, anche per una mera associazione, comunque... Io la critica la vedo in questo fatto, non che loro fossero la televisione, cioè che la televisione non avrebbe mandato le immagini della Moratti scientificamente, dunque, cioè avrebbe scelto di non mandare le immagini della Moratti e di Formigoni. Per non associare le amministrazioni locali alle inchieste sulla 'Ndrangheta al nord. Non so. perché doveva far piacere, cioè, perché sarebbe stato il caso, scusi un attimo, perché sarebbe stato il caso di mettere le immagini della Moratti o di Formigoni? No, questo non capisco. Secondo me la critica era arrivata a quel punto, anche considerando il fatto che nel caso di Tedesco, che non conosco benissimo, però mi sembra di capire che sia Tedesco che abbia fatto qualche reato, comunque è stato sempre associato al presidente, sia perché l'abbia scelto lui, così come penso che anche Formigoni e la Moratti. Capito, ma né Formigoni né Moratti sono stati sotto indagine come Bendola. Poi, per carità, secondo me essere sotto indagine non significa assolutamente nulla, tant'è che Bendola è stato poi prosciolto da quelle indagini in cui è stato coinvolto anche Tedesco, in un'altra indagine, con grande stupore dello stesso Tedesco, che venne qui ospite proprio alla Zanzara a dircelo. Per cui è sbagliata anche la risposta di Formigoni su Tedesco, su Bendola, quando sostanzialmente si augura. No, Bendola deve dire perché non è finito in galera, cioè non è una risposta tratta da garantista alla Formigoni. Voglio dire, devono spiegarci perché i politici del nord negano che qui c'è la mafia. Questa è una questione politica fortissima. Non è la questione che pone Bendola. Non sono i politici a negarlo. Quanto dice anche il prefetto di Reggio Calabria, lo sa anche un bambino che in Lombardia c'è la mafia, tranne il prefetto di Milano. Sì, però io ripeto una cosa. Il governatore della Puglia, che dice che la Lombardia è la regione più mafiosa d'Italia, ha ripetuto quello che ha detto un procuratore sul Corriere della Sera l'altro giorno. Fa un attacco politico al presidente della regione Lombardia, all'istituzione politica lombarda. È un attacco politico che va motivato, però. Ma cioè, il procuratore che dice la stessa cosa fa un attacco politico al governatore. Ma il procuratore non è che dice che la Lombardia è la regione più mafiosa. Capitale dell'Andrangheta. Capitale dell'Andrangheta al nord. A parte che ha detto Milano e a tante lì vicino c'è Buccine. Sono tante situazioni lì vicino, tanti comuni limitrofi. Stato arrestato il sindaco. Non per mafia, però. E tante città lì vicino, nell'Interland milanese, che hanno come base la mafia. Grazie a Marco da Milano, 800 24 00 24. Roberto, sempre da Milano, buonasera. Pronto? Sì, dica. Sì, Roberto, la sento. Buonasera, sì, ho sentito prima Gonfalonieri, no? Sì, Gonfalonieri. E io sono di sinistra, però mi trovo molto d'accordo su quello che ha detto di Berlusconi, nel senso che io sono un difensore proprio della privacy. Perché se di notte noi dovessimo mettere delle telecamere nei comportamenti delle persone che di giorno magari non hanno la famiglia oppure hanno un ruolo importante, di notte magari poi si scopre che vanno con i viados. Quindi io penso che uno nella propria privacy debba fare quello che vuole. Tra l'altro lui assomiglia molto ai suoi fantasisti del calcio, Ronaldinho, Savicevic, così, qui genio con la testa. E in questo, non ho capito però, scusi. Come? Cioè, Berlusconi assomiglia ai geni del calcio e dunque genio e sregolatezza. Sì, però quando uno è presidente del Consiglio la sregolatezza non so se va Maradona bene. Giocava, quando era in campo Maradona era un fenomeno, di sera faceva. Sì, ma lei sa che per ho capito, però Maradona giocava a calcio. Diverso, ma cosa vuol dire? Ma nella vita privata uno può. Lui allora io non sono di Forza Italia, sono di sinistra, ho detto e sono contro. No, ma non è quello il punto. Non ce ne freghiamo di queste cose qui. Non è quello il punto. Per esempio, per restare nella metafora calcistica, Ronaldinho è stato mandato via dal Milan, comunque l'hanno mandato via, l'hanno fatto andare via anche per questioni che riguardano proprio la vita, la sregolatezza della sua vita notturna. Ma abbiamo la sigla, avete sentito questa piccola musichetta? Che succede? No? C'è la pubblicità, la riprendiamo subito dopo, 800 24 00 24, sempre in diretta qui da Iseo, da Nord, Nord Camp, Iseo. A dopo. Bene, di nuovo in diretta qui alla Zanzara, sempre, dillo tu, ogni volta mi scordo. Nord Camp, mi scordo. Siamo anche il padrone di casa, chiedilo a lui, cos'è l'associazione? Cos'è Nord Camp, che io conto sempre con Nord Camp, capo Nord. Enricoletta, buonasera. Buonasera, io ragazzi tocco il cielo come un dito. Perché? Perché io nella mia vita, la mia massima aspirazione è essere invitato una volta alla trasmissione della Zanzara. Non mi avete mai cagato. Tra l'altro non è vero, comunque. E io oggi non solo sono invitato, ma siete voi ospiti a casa nostra. Sì, quello è vero. Io posso chiudere la mia vicenda politica adesso. Finita. Ma chi abbiamo qui accanto? C'è un ministro della Repubblica che non va mai in televisione. E però viene alla Zanzara. Ha detto che sta solo un minuto e poi 30 secondi. Non gasatevi troppo. Io non sapevo neanche che esistesse la trasmissione la Zanzara. No, ma che dice? Ma che dice? Io ravo che esistesse. Lei ascolta solo Radio Badalena. Lei ascolta, diciamo la verità. Non sempre neanche quella, ma proprio la Zanzara. Avrei portato l'anti-ride, qualcosa del genere, per cancellarvi. Roberto Calderoli, buonasera. Buonasera, sì. Ministro. Chi è costui? Che non lo conosco. Signor Cruciani, signor Parenzo, lo conosco. No, purtroppo Parenzo lo conosco da tempo. Da 10 anni che questo non conosce la Zanzara, perché la gente. No, il dramma è che conosce Parenzo e non la Zanzara, capito? Questo è il dramma nel dramma per Radio 24, che è una radio. Ma perché lei non va mai da più da nessuna parte? Non la vedo più in televisione. Cioè, guardi, il contrario di quello che fanno i politici. Se non mi faccio la solita cosa, i politici non lavorano, vanno solo in televisione, perché questo è scontato. Voglio fare non come quelli che dicono fate quel che dico e non quel che faccio. Siccome ogni volta che assisto a queste trasmissioni, ancora di più se si parla di politica, immediatamente devo cambiare canale e trovo una voglia disperata di recuperare il letto e andare a dormire. Quindi se guardando gli altri lo stimolo è quello, non vorrei determinare i peggiori istinti a quelli che dovessero guardare ma me. Chi è il più bravo della Lega in televisione? In televisione, lei qualcosa guarderà ogni tanto, guarda. Il più bravo, che è il più efficace? Ma guardi, ce ne sono 3 o 4 giovani che sono molto bravi e mi dica subito Reguzzoli, efficaci. È uno di quelli, Cota. Anche Maroni ci va poco, perché quando va Salvini è sempre da lei. Scusi, se non lo sa lei. Ma lo farà vice sindaco a Milano o no, Salvini? Io non sono quello che decide le cariche, poi io sono una persona con i piedi per terra, sono convinto che accadrà, però prima si vince e poi si parla di vendere la pelle dell'orso, però se lo porta male. Concreto, sono convinto che accadrà, cioè se dovesse vincere la Moratti, Salvini può insomma può fare vice sindaco a Milano. Il boss ha detto il contrario, glielo dico. Ma guardi, io sono convinto che si presentano ancora, mi auguro, democraticamente le liste. Sì. Bisogna che ci sia uno che venga eletto perché è il vice sindaco, e poi si deciderà all'interno di quello che è la rosa dei consiglieri eletti chi sarà il migliore per fare il vice sindaco. Cioè conta chi prende più voti? Ma che punta fine? No. Il migliore, si sceglie il migliore. Il migliore, insomma, lui ha grande esperienza a Milano, eccetera. La persona ideale per fare vice sindaco. È un segretario della Lega. No, no, assolutamente. Allora pensi per casa propria. Ma cosa vuoi? Poi anche di Roma, Cruciani, glielo dico. Ma signor Lancaterone. No. Attenzione, allora, specifichiamo una cosa. È di Roma, Cruciani. Peggio. Anche con Falonieri gli ha detto la stessa cosa. Guardi, torna a casa. Se io avevo proprio la minima idea di votare per la Lega, ce l'ho anche avuta, pensi. A questo punto lei mi ha detto questa cosa, non l'ha chiuso, il discorso è chiuso, finito, chiuso. Meno male che non presenti alle liste, Roma. No, ma io ho voto a Milano, abito a Milano da 15 anni, caro Calderoli. Io credo che lei non ci abbia mai votato. Eccola. E si sbaglia. Col tempo arriverà a votarla, perché poi alla fine ci arrivano tutti, anche i peggiori. Cioè voi volete il 100% alla fine, no? Che volete? Aspirate al 100% o no? Ma io, perché porsi dei limiti, 110-120% va anche bene. Senta, le faccio leggere cosa ha detto Fini un'oretta fa. Fini, no? Presidente della Camera, conosce il Presidente Fini, sì. Di vista. La Padania, anche lì, vedendo poco la televisione, le dice. Giustamente. Però Fini non è che ci fa molto. Cosa ha detto Fini? Scusa. La Padania è una grande sciocchezza. È solo una pianura. Cosa tiene insieme 20 miglia con il Cadore se non l'essere italiani? Cosa tiene insieme 20 milioni di padani? Perché c'era anche chi a suo tempo sosteneva che la terra era piatta e voleva bruciare chi diceva che era tonda. Lui è a questo livello, comunque dovrà avere maggior rispetto per la terra che gli paga lo stipendio. Maggior rispetto per la terra che gli paga lo stipendio? Non è che lo stipendio gliela paga la Padania, scusi. Ah, sicuramente non glielo paga Roma lo stipendio. E come no? Glielo paga la Camera dei Deputati. Sì, sì. Beh, i cittadini italiani, diciamo, gli pagano lo stipendio, no? Sì, sì. No, o no? Sì, sì. Ma molto di più i cittadini padani. Cioè, lo stipendio di Fini è molto più stipendio dai padani che dal resto d'Italia. Guarda il PIL, come è distribuito, si renderà conto che la maggior parte dello stipendio di Fini glielo pagano i padani. Scusi, il suo confine della Padania dov'è? Cioè, dov'è il confine della Padania? Anch'io non l'ho capito. Per il ministro Calderoli. Per il ministro Calderoli, per lei. Emilia Romagna. Anche per me la Padania non esiste, però questa è la mia opinione. Toscana. Vivo. Vede, lo so, però. Viva prima sul voto su Milano. No. Beh, ministro, anche per me la Padania. Anche lui. Splendida. Anche se vivo a Milano, c'è una specie di silenzio. È una vostra però, battaglia, capisco le parole. Voi siete degli eretici, prima o poi vi convertirete. Vabbè, comunque, in ogni caso, i vostri confini dove sono? I vostri confini dove sono? Come sono i confini del sole e della, del tramonto. Beh, tutto quello che c'è di bello in giro è padano. Vabbè, adesso, anche al sud. Un'ultimissima cosa e poi la lasciamo. Ma dopo il federalismo, che c'è? Tutti a casa, potete andare a casa, è finito tutto. No, abbiamo da fare la riforma della Costituzione, completare il codice dell'autonomia. Dopo il federalismo, che ci sta a fare? Cioè, ha finito la sua funzione, no? Cioè, non vi sciogliete. Vedete che è anche ignorante, perché non c'è solo la parte fiscale. Ignorante, terrore. Mi ha detto ignorante, terrore. Non ti posso mai dire io. Bravo Calderone, torna più spesso Calderone. Mandiamola questa, è ignorante, perché se insultano sempre me. No, ma forse del verbo ignorare, non sa. No, io volevo dire, ignora. L'indipendenza. C'è chi non studia o chi studia nel suo non cuore, che oggi ho la possibilità di guardare da vicino, anche se non dentro, da esterno, così, il suo cuore che pulsa per l'indipendenza. Il cuore pulsa per l'indipendenza della Padania. Sta guardando quale tipo di indipendenza? Gli Stati Uniti? No, l'indipendenza per uno Stato autonomo. No, noi abbiamo scelto la strada del federalismo e siano convinti che anche attraverso il federalismo si possa arrivare ad essere padroni a casa propria e in un paese dove le differenze rappresentino un valore aggiunto e non, come è stato per tanto tempo, un qualcosa che invece può rappresentare una depressione. Bene, grazie, la lasciamo perché la vogliono tirare fuori, anche lei non ne può più. Che è venuto qui al PD, al radio, no? È venuto qui da Letta. Come mai? Ma io sono stato anche alla festa, quest'estate era la festa dell'unità, che è l'unica che si chiama ancora dell'unità, quella di ma Bologna. In futuro vi potete accordare? L'anno con prima questo... ero con Bersani. Con questo alla signore festa qua potete accordarvi. Berlusconi tra un po' non, no, smetterà di far politica, tra un po', credo. Parenzo, ma lascia una casa dal lavoro, stia attento. grazie a Roberto Calderoli. Arrivederci, ministro. 800 24 00 24, mandatemi un Zanzara Party, così ci sciogliamo un attimo. Adesso che ci ha detto, noi come facciamo a essere cattivi, che lo siamo, non lo siamo, dopo che ci ospita, ha detto che è un privilegio essere qui, che ci ascolta quando può in macchina, basta. Dobbiamo essere cattivi. Come faccio Letta, a essere cattivo? Quale sarà? Basta che siate voi stessi. No, ma il punto è un attimo, lei, io l'ho criticata molto in alcuni momenti. Sì, me l'hanno tante volte riferito. Sì, perché... lei che era prima una persona moderata, considerato anche uno che aveva anche detto l'anti-berlusconismo, no? È diventato a un certo punto più anti-berlusconiano. Sì, io. Sì, ma una cosa pazzesca, dichiarazioni a... Cosa ho detto? Beh, adesso non ce l'ho qua, la segna stampa, ma insomma è diventato molto anti-berlusconiano, è vero o no? No, io penso... Non c'è stato un cambiamento in Enrico Letta? Io penso questo, che non è vero che ci sono due Italie di cui una migliore dell'altra, non è vero che noi siamo meglio degli altri, ogni tanto leggo, no, noi, sì. L'altra Italia, noi meglio, quegli altri sono peggio, noi siamo quelli che non parcheggiano in doppia fila, gli altri parcheggiano in doppia fila e queste cose qua. Per esempio Cascini, il segretario del NM, quando dice che la destra, il centrodestra non è... moralmente legittimato a fare la riforma della giustizia, dice una stupidaggine? Assolutamente. Il tema di fondo qui è un altro. Il tema è, secondo me, Berlusconi oggi è inadeguato a fare il Presidente del Consiglio. Vabbè, questo poi voi lo dite però da 15 anni, eh? Adesso. No, due anni fa, quando vinse le elezioni e cominciò a governare, nessuno disse questo, perché aveva vinto. Che cos'è che lo rende inadeguato? Lo scandalo Ruby? Beh, lo rende inadeguato il fatto che oggi, per esempio, crisi libica, ci sarebbe bisogno di un primo ministro che tratta con la Merkel, con Sarkozy, con Obama, nessuno dei tre vuole nemmeno prenderci un caffè con Berlusconi. Vabbè, adesso questo che ne sa lei, che non vogliono prendere un caffè con Berlusconi? Insomma, questa è la mia impressione. La sua impressione, non ha fonti... No. Cioè addirittura il caffè non ho letto i cambi almeno di il caffè Wikileaks. Lo prenderanno insomma. La mia impressione è questa, che noi oggi abbiamo un governo che non è in grado di stare allo stesso livello dei grandi governi che stanno decidendo. Quindi il mio anti-berlusconismo, chiamiamolo così, è perché io penso che il centrodestra, per il bene del paese, dovrebbe cambiare primo ministro. E chi dovrebbe mettere? Ah, non lo so, decidessero loro. Non sono io, non faccio parte del suo ideale in questo momento, il suo ideale leader del centrodestra, no, chi è? Decidessero loro. Non voglio dirlo perché non avrebbe. Io dico soltanto che dovrebbero cambiare leader, perché è palese che Berlusconi non ce la fa, non c'è. Non credo sia Calderoli, comunque è il suo leader del centrodestra. Detto questo, però distingo questo ragionamento. Quindi, se sono anti-berlusconiano, non lo so, però io distingo questo ragionamento. Dico che Berlusconi sono mesi ormai che non fa più il Presidente del Consiglio, non ce la fa più, non ha più l'autorevolezza, la forza, non è più riconosciuto a livello internazionale, finisce così. Detto questo, io sono uno di quelli che assolutamente ritiene che il centrodestra ha vinto le elezioni, deve governare, governi e governi tutta la legislatura se cambia primo ministro, e che non è vero quello che ogni tanto noi dalla nostra parte ci diciamo, che consolandoci, ma noi siamo quelli eticamente migliori. Non è così. Pubblicità, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Eccoci, eccoci qui da Iseo, stavolta lo pronuncio bene, era Nordkamp. Seconda edizione di Nordkamp, secondo giorno. Siamo ospiti di Enrico Letta, che è vicepresidente del vice segretario del Partito Democratico. Che è qui con noi. Che è qui con noi. E dopo... che oggi tocca il cielo con un dito, perché finalmente è invitato alla Zanzara, dopo che aveva aspirato tante volte, ma è mai. Ma non è mai stato. Rifiutato. In realtà, una volta è stato invitato. Forse perché lei è troppo serio. Cruciani, è un mese praticamente che scoppia la guerra in Libia, succede di tutto. Ruby Gate, cioè lui ogni giorno dice: Scilipotti, cioè lui è fissato con i responsabili. No, io non sono ogni fissato. Ogni giorno c'è Hai uno ragione. Dei responsabili. Io è non vero. Sopporto più i responsabili. Hai ragione. Primo, perché sono irresponsabili, perché non ma erano mi fanno in aula. Ridere da morire, mi fanno impazzire. Sapete la storia della sapete lo scherzo quale? A Scilipotti? No, sapete. Quale? Sì. Gli hanno fatto uno scherzo telefonico. Cioè? Ah, quello che è tornato indietro da porta a porta. Sì, lo racconti lei, lo racconti lei. Racconti lo scherzo a Scilipotti. Gli hanno fatto una telefonata dei cattivoni, non so chi l'ha fatta, ma sta contento come un pazzo. Dei cattivoni gli hanno No, pare però del PDL forse, non del partito dell'opposizione. Non lo so chi è stato, insomma era un gruppo di Montemponi, gli hanno telefonato mentre lui stava imbarcandosi a Fiumicino, ripartendo dopo una giornata faticosa di voti parlamentari, e fingendosi quelli di porta a porta, hanno detto che il dottor Vespa lo voleva in trasmissione a discutere con Tremonti. E quindi lui? E lui non ha pensato che era uno scherzo. Certo, dai, Scilipotti che discute con Tremonti è una cosa pazzesca. E poi no, gli hanno detto poi c'era... No, lui ha risposto dicendo non si preoccupi, cioè non ho... No, lui ha subito detto certo, adesso vedo di tornare, ho il tempo per... ed è tornato, si è presentato in via Teulata. No, c'è la trasmissione. Sono venuto, sono Scilipotti, sono per la trasmissione. E cosa gli hanno detto? Io avrei voluto assistere. Cioè, ma la cosa straordinaria sarebbe stata registrare tutto uno scherzo di questo tipo. Cioè, registrare tutto, farlo arrivare lì e riprenderlo. Bellissimo. Sarebbe stato straordinario. La verità è che io ho sentito la registrazione telefonica. Ah, c'è la registrazione telefonica. Ah, allora è roba vostra. È uno scherzo del PD. No, è uno scherzo di alcuni deputati del PD. No, è uno scherzo. Vabbè, hanno fatto collettivo PD-PDL. È un trasversale. Allora, sentiamo Cesare dalla provincia di Milano, che ci vuole parlare, credo, delle parole di Vendola di oggi, molto forti nei confronti di Formigoni. Ma non di Formigoni, in generale della Lombardia. Sì, però voleva attaccare Formigoni, diciamo la verità. Non, ma è vero che in Lombardia ce l'andrà anche questa cosa. Ma sì, perché ho letto ieri l'intervista. Il presidente della regione Puglia non può dire che la Lombardia è la regione più mafiosa d'Italia, è ridicolo. Ma non ha senso. L'ha detto il procuratore, ma il Corriere della Sera lo legge? Non è che ha detto la Lombardia, come no? È la regione più mafiosa d'Italia. La 'Ndrangheta ha sede in Lombardia, questo ma è anche normale, perché ci sono le imprese, c'è ricchezza. Adesso fra poco sentiremo anche l'opinione diretta su questo. Cesare, provincia Pronto? Di Milano. Dica. Sì, buonasera. Chi ha ragione, io o Parenzo su questo? No, ha ragione lei. Ah, meno male. No, ma non esiste. Io sto leggendo premetto, io sono un consigliere comunale del PDL di Melzo, in provincia di Milano. Lei è anche un po' di parte da questo punto di vista. Comunque, lei è all'opposizione. Però devo dire la verità, che la questione dell'Ndrangheta dal nord, di infiltrazione che riguarda consigli comunali, è un po' trasversale, non riguarda solo il PDL. No, ma sono perfettamente d'accordo, ma io non voglio... Poi è chiaro che la maggior parte delle amministrazioni sono del PDL e dunque... Pronto, io sto leggendo l'agenzia che dice: non abbiamo avuto la fortuna, ha detto Vendola, di vedere sui TG nazionali volti di Moratti e di Formigoni associati alle vicende di cronaca giudiziaria che raccontano quale sia il livello di pervasività dell'organizzazione 'ndranghetista che controlla le ASL e ai boss che organizzano le proprie riunioni negli ospedali. Cioè, Vendola voleva dire che i telegiornali sono stati un po' indulgenti nei confronti di Moratti di Formigoni, non mandando in onda quelli che sono i capi dell'amministrazione locale. Noi come partito mandiamo un professionista nella commissione sanitaria dell'ospedale di Melegnano, la zona di Melegnano. Sì, no? Allora? Ma scusi, questo mi dice: l'Ndrangheta in Lombardia è un circuito di appalti che ruotano intorno a tutte le pubbliche amministrazioni di questa regione. Vabbè, ma questo quello... è pazzo, ma chi gliel'ha detto? No, però, mi scusi Cesare, sicuramente è esagerata la cosa di Vendola, perché ha detto che tutte le amministrazioni comunali e tutti gli ospedali sono occupati dall'Ndrangheta, eccetera. ma il punto non è questo. Secondo me sono delle dichiarazioni che sono un attacco politico a Formigoni, questa è la sostanza dei fatti. Comunque abbiamo il traffico, poi torniamo con Letta su questo. Eccoci, 800 24 00 24, ancora in diretta dei SEO. Non so se secondo lei Letta, avendola sbagliato a fare quelle dichiarazioni su Formigoni, poi gliele faccio leggere magari in integrale. Ma adesso io non ho visto, non so i toni. Quello che è sicuro è che il tema delle infiltrazioni mafiose, ndranghetiste, camorriste nel nord del nostro paese è un tema assolutamente sul quale non bisogna abbassare la guardia. Anzi, credo che questo sia fare di questo tema un tema soltanto di lotta politica e di discussioni politiche, colpa tua e colpa mia, no? È evidente che qui il tema, sappiamo tutti qual è. Il tema è che la mafia, la 'ndrangheta va dove c'è il soldo, dove c'è l'opportunità di fare affari, e siccome c'è l'Expo nei prossimi anni, Milano e la Lombardia sarà oggetto di attacco, e quindi c'è bisogno della massima difesa. E lei avrebbe detto una frase: la Lombardia è la regione più mafiosa d'Italia, perché questo ha detto. No, quella frase non l'avrei detta. È sbagliata, dunque. Quella frase non l'avrei detta, però. Ogni allarme posto in termini molto seri rispetto ai rischi e a quello che sta accadendo, perché io ho ascoltato tante volte il giudice Pignatone, ho ascoltato tante volte persone che lavorano in questo ambito. Domani noi avremo qui a Nordcamp, sì, avremo qui Raffaele Cantone, che è uno che ha fatto tutto il lavoro contro i casalesi e sa benissimo che cosa vuol dire, e ha lavorato, l'ha scritto nei libri che ha fatto, le infiltrazioni al nord. Quindi però Moratti e Formigoni fanno poco da questo punto di vista, secondo lei? Perché poi la sostanza è questa, no? Perché... No, mettiamola così: Moratti e Formigoni sbaglierebbero se pensassero e agissero in modo tale da mettere diciamo sotto il tappeto la polvere rispetto agli allarmi che sono invece è giusto. Quindi io e penso qualche volta che, lo fanno? No, non lo so, penso che Moratti e Formigoni devono tenere alta la guardia, penso che stiano tenendo alta la guardia, penso che lo debbano fare di più, perché ripeto, i prossimi anni saranno quelli dell'Expo, quindi saranno anni in cui avremo tutti attenti, tutti addosso, la grande pubblica opinione internazionale, e avremo il tentativo di queste organizzazioni di starci dentro, di prendere i vantaggi di tutto ciò. Parliamo un po' di politica, di politica del Partito Democratico, di facciamo le zanzare. Facciamo fondo, un po' le zanzare. Sì. Ma lei ogni tanto lo sente suo zio al telefono per parlare di politica? No, ci sentiamo per farci gli auguri. Solo per farci gli auguri, non parlate mai di politica? Mai, mai. No, beh, non ci credo, mai, non ci credo. A Natale magari, quando vi trovate tutti insieme, no? Ma parliamo di tutto, ovviamente, no? Cose che non si possono riferire alla radio, naturalmente, mi pare evidente. Parliamo, no? Di tutto, ci vogliamo bene, ci vogliamo molto bene. Ma secondo lei è adatto al Quirinale per fare il Presidente della Repubblica? Assolutamente sì. Sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica? Ottimo. Lei lo voterebbe come Presidente della Repubblica? Ma di corso. Questo è interessante. Se vincesse il centrodestra elezione 2013, lei lo voterebbe? Ma... se le proponessero Gianni Letta, lo voterebbe? Ma certamente. E anche il resto del PD la seguirebbe, secondo lei? Ma non lo so, io penso di poter su questo tema come dire, invocare il legittimo impedimento rispetto agli ordini di partito o no? No, perché è molto apprezzato anche dentro il PD, effettivamente. Beh, sì, questo sì. Ma secondo lei perché è rimasto così legato a Berlusconi? Tante volte me lo chiedo anch'io, però fa parte della sfera personale privata. Mi fermo qua, mi fermo sulla soglia. Beh, sulla soglia, già ha detto che lo vedrebbe bene come Presidente della Repubblica. È una cosa che potrebbe accadere, secondo lei? Cioè è nell'ordine delle cose, al di là delle elezioni e tutto, è una cosa che ci può stare? Onestamente non lo so. Bisognerebbe avere la sfera di cristallo. Guardi, siamo abituati a cambia tutto nell'arco di poco. A proposito di cambia tutto in poco tempo, oggi Franceschini, che è stato segretario del suo partito, ha detto che contro Berlusconi serve un governo di emergenza. Questa storia del governo di emergenza su per che cosa? Non c'è mica, che tipo di emergenza c'è in Italia? Sì, ci sono un po' di emergenze come in tutti i paesi, emergenze economiche, d'accordo, provvedimenti da prendere, il governo ne prende, magari li prende in maniera sbagliata, ma che tipo di emergenza? Non c'è un'emergenza democratica in Italia? Per dire una frase che non si può dire. No, si può dire, sì, si può dire. È tutto qui. Siamo dentro una operazione militare multinazionale. Sì, no, d'accordo. Non è una cosa da poco, No, beh, non si riferisce a quello, Franceschini, credo, quando dice governo di emergenza. Però quello che voglio dire, adesso l'emergenza, questa emergenza, questa emergenza, noi abbiamo i nostri militari che sono sul campo lì, cioè non è che puoi immaginare che il paese così se ne fotte di tutto questo e pensa allegramente al dibattito politico senza... Vabbè, però, io penso in altri paesi non è che si fanno governi apposta per affrontare una situazione militare, c'è un governo, una maggioranza Io penso che il ragionamento di Franceschini fosse un ragionamento del tipo: questo governo non ce la fa più, di fronte a una caduta di questo governo bisognerebbe mettere in campo un governo di emergenza. Lei è d'accordo con il governo di emergenza se cade questo governo? Beh, se cade questo governo io penso non bisogna andare a votare qualcosa. E dipende quando cade in questo momento, ovviamente. Ma scommetterebbe lei 50 euro sulla caduta del governo da qui ai prossimi giorni? 50 è poco. Io no. No, non cade il governo fino al 2013, resta? Ma Berlusconi? No, ma come si fa a saperlo? Io dico adesso non cade, nel senso che è passato a un voto ieri mattina. È passato il voto ieri mattina di un pelo, perché ha avuto diverse defezioni. E poi soprattutto questo schema che Berlusconi pensa alla fine che lui paga chi gli rompe le scatole di più, no? E quindi i posti, adesso c'ha questa logica che dà i posti a quelli che si sono messi lì in mezzo e che stanno contrattando. Ma come si può immaginare adesso questo gruppo di responsabili, sì, gli scilipoti eccetera, che vengono premiati con sottosegretari, ministri e quant'altro? Ma Romano non doveva fare ministro, secondo lei, per le accuse che ha? Sono scelte fatte da loro. Beh, insomma, come dire, il passaggio col quale tutto questo è iniziato non lo aiuta per niente. Cioè, però forse è stato azzoppato da Napolitano un po'. Probabilmente Napolitano ha detto a Berlusconi, gli ha detto in tempo: occhio a quello che fate, perché non è un po' inusuale l'intervento del Presidente della Repubblica sulla nomina di un ministro? Cioè, prima la nomina e poi fa un comunicato in cui sostanzialmente dice: non sono d'accordo, hai delle accuse gravi, speriamo. Però la Costituzione dice che è il Presidente che lo ha nomina. Il potere di nomina, sì, certo. Però non è che si accompagna a un comunicato. Su proposta del Presidente del Consiglio. Dunque, veramente legittimato a fare quella nota. Lunga vita a Napolitano. Vabbè, può anche sbagliare, anche se è un bravissimo presidente. Parlavamo può succedere del prossimo presidente della Repubblica. Sì. Posso fare una bis di Napolitano? Un bel bis di Napolitano. Beh, insomma, mi sembra un po' troppo con gli anni, un po' troppo. No. Come è troppo con gli anni? È straordinario Napolitano. No, eh? Io non sto dicendo, è un bravissimo presidente della Repubblica. Non è giovanissimo. No, ecco, insomma, questo. Ma non penso che lo voglia nemmeno lui fare un bis, per carità, sono altri 7 anni. Sto dicendo quello che ha fatto nei giorni del 150esimo, sì, il programma delle iniziative, delle celebrazioni, avessi dovuto fare io. Beh, si è impegnato molto, sì, Parenzo stato... o Cruciani, no, tutti carino. E tre insieme, no, quello stesso programma, noi saremmo schiantati dopo la metà del programma stesso. Napolitano è stato o bis di Napolitano o Letta o Gianni Letta, questa è... Vabbè, I radioascoltatori non possono vedere l'espressione, il sopracciglio, no? No, ma certo che sono discorsi, assurdi che non hanno senso. Due anni non è fra 100 anni. Vabbè, io voglio porre invece ci sono le elezioni politiche. Politica a Letta sulla falsariga di quello che indicava lei, direttorissimo. Perché voi avete fatto questo convegno che si chiama Switch Off, no? Voi volete spegnere Berlusconi, no? Però questo mica si spegne, questo continua a governare, per dirla romana. Cioè, lo switch off qui continua. E l'on è difficile. Ma soprattutto accenderlo. Poi Franceschini dice sempre: per carità, Franceschini, sì. Però anche tu citi Franceschini, siamo qui con Letta. No, perché ha commesso continui abusi di democrazia. Berlusconi, ma Berlusconi commette abusi di democrazia? Ah, sì, questo è importante. Cioè, viola la Costituzione, cioè è un pericolo per la democrazia. Ah, questo è importante. Io penso che Berlusconi abbia su molti temi. Secondo voi, mettiamola così. Il paese è dentro un'operazione multilaterale dell'ONU, eccetera. Tutti ci stiamo occupando di capire la vicenda libica, come il comando NATO, eccetera. Discussione in Parlamento su tutto questo. E in silenzio, questi presentano e fanno approvare in commissione la prescrizione breve per i non centrali. Guarda caso, una roba che gli fa scontare 8 mesi. Per avere la prescrizione sul processo Mills è un'altra cosa. Tutto questo approfittando della guerra in Libia. A me queste cose, lo dico sinceramente, mi fanno schifo. Queste cose qui sono cose che non hanno. Però questo è, vuol dire, uno può considerare legge ad personam, ma che c'entra l'abuso di democrazia, la violazione della democrazia? Tutto fatto secondo una procedura formalmente democratica. Insomma, non è che. Non lavora fuori dalla Costituzione, insomma, no? Sennò Napolitano forse sarebbe intervenuto, no? Beh, certamente. Io penso, per esempio, che la famosa telefonata al questore lì alla questura, quella sia una cosa che è fuori. Concussione. Quella è fuori, in qualunque qualunque altro paese europeo. Politicamente o penalmente? Penalmente bisognerà vederlo. Questo se è confuso. Non lo decido io se è penalmente. Però secondo lei basta quello per farlo? Io dico solo questo: qualunque primo ministro di qualunque paese europeo oggi non sarebbe più primo ministro, non per via penale, ma per via politica, per un atto come quello. Punto. In Italia questo non è accaduto. Chi è il prossimo leader del centro-sinistra? È Bersani. Beh, dovete deciderlo però. No, cioè, è Bersani. È Bersani, ma le primarie le fate o non le fate? Perché non si è capito bene. Le abbiamo fatte, Bersani è il leader. Sì, ma quando ci sarà da decidere chi è il candidato a fare il presidente? Decideremo prima la coalizione e poi decideremo se con gli alleati se fare le primarie. Dunque non avete deciso se fate le primarie o no per decidere il leader della coalizione? Non ci sono le elezioni, quindi. No, però il metodo non l'avete ancora deciso. Però su questo siete un po' ancora indecisi. Perché siete così indecisi di fare le primarie o no? Non lo capisco. Il metodo è chiarissimo. Decidiamo con chi allearci. Beh, siccome questa non è una decisione, decidiamo con chi allearci, ci troviamo con chi allearci e con chi ci troviamo decideremo il metodo col quale fare il cambio. Dunque le primarie non sono una certezza. Se noi siamo noi tre e diciamo dove andiamo a cena stasera, ci riuniamo. Benissimo. E non è che io vi dico andiamo qua per forza, decidiamo insieme, uno vuole andare in pizzeria. La cosa è questa, le primarie che erano state sempre il simbolo del Partito Democratico non sono più una certezza. No. Il nostro statuto è chiarissimo. Le primarie sono uno strumento per decidere il candidato premier di una coalizione se la coalizione decide. Vabbè, se non ci rifermiamo alle cose formali, negli ultimi anni avete fatto sempre così. No, è un fatto sostanziale, non formale. Se tu ti allei di allearti con un partito, scelto se sindaci con le primarie. Se decidi di allearti con un partito che non vuole fare le primarie e tu vuoi fare le primarie, fai le primarie. E se Casini non vuole fare le primarie, decidi di allearti con un partito. Decidi di allearti con Di Pietro. E Di Pietro, per esempio, non vuole fare le primarie. Faccio un esempio. È sicuro? Sì. Di Pietro ha sempre detto. Se me lo dice lei. No, e a quel punto lui ti pone il problema e ne discuti. Però non ti dico che la soluzione è una o un'altra, perché io sono uno di quelli che pensa che le primarie sono una gran figata. Le primarie sono una cosa che è stata fondamentale. Forse per lei le farebbe comunque. Forse per me le farei, certo. Pubblicità, borsa. Eccoci di nuovo in diretta alla Zanzara, 800 24 00 24 20 e 37, sempre da Iseo. E voglio farti riascoltare, caro Parenzo. Sentiamo. Cosa hai detto a Lele Mora l'altro giorno? No, perché Lele Mora? Mi mette di cattivo umore, ma ci manca solo Lele Mora. Così, perché ogni tanto voglio farti ricordare. Quel fascista di Lele Mora, bisogna dire. No, mussoliniano ha detto. Vabbè, no, ma ha fatto una distinzione solo sua. Sì, una distinzione, che mica De Felice. No, però storica. Cioè adesso non è che Lele Mora ci spiega cosa è il fascismo. È vero, me lo spiega De Felice, nei suoi libri lo leggo, me lo spiega Lele Mora, rido e lo mando anche a quel paese. No, d'accordo, però effettivamente una differenza tra mussoliniano. Cilipoti, Lele Mora, ma hai delle perversioni, sono una cosa pazzesca. Ma se ti diverti con un pazzo, perché dici perversioni? No, mi diverto da morire. Diverti, poi mi critichi dicendo no, non puoi invitare solo Lele Mora e Scilipoti irresponsabili. Perché invito i responsabili ogni sera? Perché mi diverto come un pazzo. Sì, no, ma anch'io. Mi diverto come un pazzo, sì, perché è la cialtroneria della politica. Oh. Qui non c'è oggettivamente uno può essere d'accordo o meno, ma non c'è la cialtroneria della politica. Se non voglio fare un complimento a Enrico Letta, ma. Beh, insomma, non è un reato, però. Se lo cosa? No, no, non è un reato. No, infatti, sì, ci sono tante. No, non è un reato. Però, scusa, invitare Luciano Sardelli, uno che ha scritto le canzoni insieme ad Albano ed è diventato il responsabile, perché anche questo non è un reato, e che è diventato nel frattempo da psicoterapeuta. E che cosa è diventato Sardelli? È uno responsabile anche lui. Sì, responsabile, segretario del responsabile. Tesoriere. No, Sardelli. Tesoriere è Grassano. È Grassano. Tesoriere che è Grassano. Non sapeva neanche quanti soldi c'ha il partito. Sì, non sapeva quanti soldi gestiva. Poi quell'altro che è andato nella commissione esteri, non sapeva la capitale della Libia. Sempre lui, Grassano. A Grassano, una cosa pazzesca. Non sapeva la capitale della Libia. No, della Libia, non sapeva la capitale. Della Siria. Della Siria. Diciamo no, mi hanno messo lì in commissione esteri. Dico, c'è la capitale della Siria. Per fare numero, ha detto. Per fare numero. Tu lo sai quanti sono i responsabili? 30. No, 29. Ma li sai? 29. Sono diventati 29. 29, 26 o 29. Non so più tenere il conto. Sono tutti responsabili. Secondo lei come li definisce i responsabili? Un aggettivo. Per il responsabile. No, i disponibili. Vabbè, è stato già detto. Uno nuovo. Mercenari. No, beh, certo, è dura. È pesante. Però, pesante. No, ritiro. Lei è moderato. È la parte moderata del partito. Rismentisco, ritiro. Ma Gianni Letta per Berlusconi è un bene, è una fortuna che lo ha, è lo un ha, bene per l'Italia, è un bene per l'Italia, la stessa cosa che dice Berlusconi, però sempre in questo caso una cosa io sono berlusconiano legato al suo zio, molto legato, no, sono molto legato a mio zio ovviamente, ma al presidente Berlusconi, presidente del Milan. Questo è vero. Oggi Ibrahimovic da 3-2, già l'abbiamo parlato con Compagnonieri, dunque derby niente. Ma se le immagini il Milan senza Berlusconi presidente? No, non esiste. In questo caso presidente per l'eternità, a vita. Fino ai 120 anni che vive. Dunque da questo punto di vista si augura che Berlusconi campi fino a 120 anni. Assolutamente. Oh ragazzi, ma gli olandesi ve le ricordate? Sì, lui non si ricorda niente perché è di calcio zero. È come la quantistica. Per cui lei in Barbara Berlusconi crede poco, meglio Berlusconi? No. Meglio che resti Berlusconi. Meglio il numero uno. Più che la figlia, insomma. La figlia ancora deve crescere. Che si occupi del Milan anche la figlia, ho capito male. Si occupa per adesso. Hai capito. Per adesso questa è l'anima di Letta che noi dobbiamo riuscire a tirare fuori. Se no gli fai fare sempre l'istituzionale, l'economista. Cosa, perché adesso Ibrahimovic è fuori gioco per via del comitato. Pato pensa ad altro. E qui è un guaio. Cioè, io anch'io ho pensato che questa cosa fosse un guaio per Pato. Ma sì, non c'è niente di positivo in tutto questo. Cioè, il rapporto, spieghiamo. Lo so, i giornali di gossip Pato, li leggo. Pato, attaccante del Milan, di cui è tifoso Enrico Letta. Fotografato. No, beh, ha una storia ufficiale. Vabbè, comunque, ha una storia, questo lo sappiamo. Ha una storia con Barbara Berlusconi, che prossimamente, forse chissà quando, diventerà, diciamo, presidente del Milan. Questo è il futuro, diciamo. E comunque oggi ha una stanza a Via Durati, nella sede di dirigenza del Milan, perché sta cominciando a fare pratica per quello che riguarda il calcio. Il rapporto tra un attaccante e la proprietaria del Milan, diciamo la verità, lei come lo giudica, tra l'attaccante del Milan? Un po' pericoloso per chi è tifoso, no? No, pericoloso per la, insomma, quello deve segnare, cioè, non deve avere distrazioni. Vabbè. Senta, invece la meravigliosa storia tra un suo... No, non cominciamo su questo argomento. Male che boccia c'è. No, legittimo impedimento. Come legittimo impedimento? Ma non trova meravigliosa ma questa storia? Mica adesso solo lui può legittimo impedimento. No. È una storia meravigliosa quella tra Boccia e la De Girolamo. È la bicamerale degli affetti. Guardate, stacco le cuffie. Non vuole parlare di questo? Ma è quasi ufficiale anche questo, diciamo la verità. È fidanzato. Non esisto, non so niente. Me l'ha detto al bar, sono fidanzato. Però mi ha detto con chi? Vabbè, Lele Mora, sentiamo Lele Mora su Parenzo, su, mandatemelo. E lei sarà costretto a votarmi quando io mi candiderò. Piuttosto mi taglio un coglione. Beh, io le do una mano perché si taglia il pisello, che così almeno ha fatto una cosa buona. Siamo alle 20 e livello 42. Altissimo su Radio 24, sulle 24 ore. Voi siete Radio 24. Siete pagati dalla. Adesso non lo ricordi, però. Non mi faccia cacciare. Ma perché dell'autorevole Confindustria sulle 24 ore? C'è un'intervista alle Lemona. La famosa intervista alle Lemona. Ho capito. Scusa, se foste la radio del Financial Times. Ma non ha la radio Financial Times, questo è il punto. Cioè, non ce l'ha la radio. Fino a quando? Financial Times. Non ci sarà la prova contraria. Cioè, secondo lei che dovremmo fare? Una trasmissione troppo trash. Adesso. Ha detto che la sua preferita e poi adesso ci sta dicendo che ho capito ma sta cosa di Lele Mora e degli attributi di Parenzo, ma no, questa è scappata, questa è scappata, è scappata perché poi ha detto cose molto più serie, diciamo. Ha fatto una lezio magistralis su Mussolini, Lele Mora, proprio cosa meravigliosa ha fatto. Comunque vabbè, intanto Lele Mora, la Padania esiste, signor Letta? D'accordo con Fini su questo, Mi sembra che adesso non faccio il diplomatico perché è Iseo e comunque lei è molto, ma no dai, la Padania su. Cioè il nord esiste, la Padania non esiste. Però voi avete un ponte Nord esiste, la Padania non esiste. Avete un ponte di dialogo preferenziale con la Lega, mi pare di capire. La Lega siamo alternativi, noi la Lega, però noi pensiamo che le riforme istituzionali bisogna farle con chi sta governando. Se chi sta governando vuol fare delle riforme, il federalismo è una riforma, si può fare male, cioè tasse, cose, cioè, oppure si può cercare di farla decentemente. Noi siamo quelli che pensano, siamo il grande partito dell'opposizione, noi dobbiamo cercare di far sì che le riforme istituzionali vengano fatte meno peggio di quanto farebbero da soli. E l'ultimo decreto, quello di ieri, siamo riusciti a farglielo fare meno peggio, cioè con la clausola di salvaguardia, una serie di tecnicalità. Però voi non potete non entro. Dire spesso che la Lega è razzista, eccetera, eccetera, magari non lei, ma insomma sul giornale del Partito Democratico, su uno dei giornali del Partito ma che discorsi? Quando fanno discorsi razzisti, io dico che fanno discorsi razzisti. Sì, ho capito, però dopo insomma, lo stesso Calderoli l'avete attaccato più volte, i vostri deputati eccetera, per alcune frasi che ha detto, e dopo il vostro segretario, cioè Bersani, fa un'intervista alla Padania dicendo no, ma voi cacciamo, non siete, Berlusconi, non siete razzisti, poi non siete, no, razzisti, no, eccetera. Non ha mai detto cacciamo Berlusconi, alleiamoci, noi siamo alternativi alla Lega, però ripeto, le riforme istituzionali, le istituzioni sono di tutti, quindi vanno, bisogna tentare di farle insieme. Comunque, ma quando c'era la, non farete mai Repubblica, più un'alleanza con la Lega? Non abbiamo mai fatto un'alleanza. Beh, però con la costola, no, della sinistra, se, quando D'Alema disse anni e anni fa la Lega è una costola della sinistra, un'idea, vabbè, di alleanza c'è. Io adesso non sono un medico, vabbè, che sa di costole, D'Alema è medico. No, non lo so, io di costole non mi intendo. Senta, un'ultima cosa, poi la lasciamo, ed è una cosa che riguarda Renzi. Secondo lei è una risorsa oppure uno che fa troppo casino? No, cioè, no, parla troppo. È sicuramente una risorsa, c'ha un problema di fondo. E qual è il problema? Il problema di fondo che è fiorentino. Cioè? Io sono pisano, quindi... Vabbè, questa è la rivalità con lei. No, no, no, no, no, no, no, no, no. I fiorentini ci hanno massacrato per 500 anni. Non è una cosa che si... Allora, lei dice, finché ci sono io, Renzi qui non passerà. Non è una cosa che si risolve così in una battuta di Cruciani. 500 anni di massacri. Non so se è chiaro. No, c'è ragione, non è che su Zanzara parte, 500 anni di massacri. Ho capito, però... E adesso ci vogliono fottere l'aeroporto. Perché a Pisa c'è un aeroporto serio, a Firenze c'è un piccolo aeroporto, e vogliono fotterci. Vabbè, tutte questioni vostre, locali, localissimi, vostre, del Gran Ducato. Ma parla troppo del PD? Secondo lei? No, è un bravo sindaco, sta facendo bene il sindaco. Quindi... Ma fatto bene andare Arco. E non parla troppo del PD? Parla di cosa gli pare. No? Purché faccia il buon sindaco, secondo me faccia cosa gli pare. Ad Arco l'ha fatto bene andare, immagino, no? Sì, si può andare ad Arco, no? Sospiro di letto. Sul filo del rasoio, quella. Sul filo del rasoio. Sul filo del rasoio. Vabbè, ma perché? Andare ad Arco a parlare con Berlusconi, per Firenze, sembra, per Firenze. Appunto. In che senso? Se ha fatto cose positive per Firenze, ha fatto male. Firenze va... Dunque ha fatto 500 anni di massacri, ragazzi. Non è che si risolvono con una battuta di Cruciani. Adesso su Renzi, siccome non vuole parlare fino in fondo su Renzi, non vuole, allora ha trovato risposta, questa cosa della rivalità su Pisano, Firenze, Pisa, Firenze, Pisa, Livorno, Odè. Odè, Livorno cronaca. Bravo. Com'era quella? Bravo. Meglio un pisano. No, meglio un morto in casa che un pisano all'uscio, ma che lo sai Dio t'assista, rispondono. No, che Dio t'accontenti. Che Dio t'accontenti, rispondono. Però ce lo vede come leader futuro del Partito Democratico, Renzi? Ma è uno di quelli che sta facendo bene, perché no? Potrebbe concorrere, sì, certo. Più lui o la Bindi? Il leader è Bersani, punto. No, ma vede meglio. Più la B, no, la... ragazzi, non fatemi... No, com'è che... Com'è non che... lo infinocchiamo. Parenzo, com'è che le ha detto oggi... Com'è che le ha detto oggi Rai? Il presidente della Rai? Parenzo, ho 40 anni di giornalismo, non è che mi faccio fottere, no, però il senso era quello. Io faccio fregare da lei, come dire, lei, insomma, ha 30 anni. Va bene, grandissimo. Grazie, grazie, Nicoletta. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Viva la Zanzara. Viva Continuate a seguire la Zanzara. Grazie, grazie. Bravi, grazie, bravi. Letta, bravi. Grazie. Bene, volata finale con la Zanzara. Ascoltatori, 800 24 00 24, andiamo a Milano. Davide, buonasera. Pronto? Sì, dica Davide. Sì, buonasera. Innanzitutto ho sentito prima il signor Letta, che spero che scherzassi, io non l'ho visto, però quello che diceva in merito al signor Renzi, spero che questi campanilismi siano superati. Se l'ha detto con il sorriso sulla faccia è un discorso, se l'ha detto seriamente mi posso anche preoccupare. Beh, insomma, sai, tra Pisani e Fiorentini. No, però se parliamo ancora di campanilismo, cioè, voglio dire, non andiamo più avanti. Ma ognuno ha le sue cose. Insomma. No, chiarissimo. Però, insomma, sono rimasto. Davide, ognuno ha le sue fissazioni. Certamente tra Pisani e Fiorentino ancora buon sangue. Un po' scherzava, naturalmente. Sì. Mi pare evidente. Certo che, insomma. Se l'è cavata con questo escamotage per non rispondere su Renzi, dai. Ho capito. Vabbè, Davide, poi. Velocissima. Sì. Non ho capito, con Falonieri che ci azzeccava stasera? Avete chiamato il presidente di una più grossa azienda italiana a parlare di politica. Beh, sì. Davide, sì. Dunque? No, dunque, non è che ci va lei al posto di Fede? No, guardi, mi pare di poterlo escludere. Comunque non c'è nessun tipo di relazione con questa intervista, perché non le possiamo raccontare come è nata questa intervista, dunque lei non ha capito nulla. La ringrazio, Davide. No, cioè, non ha capito niente, cioè, ha fatto un collegamento assolutamente fuori luogo, che non ha alcun senso logico. Alfredo da Como, buonasera. Buonasera Cruciani, Shabbat Shalom a Parenzo. Cosa c'è? Siamo mica alla radio israeliana, cosa c'entra? No, capito? Grazie comunque. Sì, Parenzo. Per carità. Shabbat Shalom anche a lei, grazie. Grazie. Una piccola considerazione, premetto che non sono leghista, quindi non tacciatemi subito. Anche qui per me è inutile, ma comunque ciò. Però io vorrei, mi ho fatto questo pensiero, la Lombardia è il nuovo nucleo della mafia, ma pensiamo anche che 20-30 anni fa li mandavano al nord in confino, primo. Secondo, ormai io lavoro a Milano, di milanesi non ne sento più, sono tutti siciliani, calabresi, napoletani e pugliesi, quindi non vedo questa gran... Non riesco a capire queste esternazioni come se fosse una novità che c'è una situazione del genere. È normalissimo, tant'è che adesso per riempire i nuovi spazi lasciati stanno facendo venire qui immigrati a Iosa, guarda caso però molti si dimenticano che non stanno arrivando dalla Libia, stanno arrivando da tutte altre nazioni limitrofe che non sono in guerra. Allora? E che sono comunque una papabile manovalanza per la mafia. Facciamo anche questi distinguo un attimino, non generalizziamo. Lei sta un po' allargando il discorso agli immigrati che arrivano. Edoardo da Parma, buonasera. Sì, buonasera. Io vorrei esprimere così la mia delusione per come Giuliano Ferrara, che penso che tutti reputiamo uno dei giornalisti più talentuosi che abbiamo in Italia, nel momento in cui lavora a Radio 24 è un bravissimo conduttore, un bravissimo giornalista, poi viene messo in uno spazio creato ad hoc per fare politica e non fa più giornalista e diventa un personaggio che fa politica e attacca anche dei colleghi. Penso che non sia una cosa normale che tra giornalisti ci si attacchi come Ferrara. Davvero, io attacco sempre i miei colleghi e altri colleghi mi attaccano, non lo trovo affatto una cosa disdicevole, una cosa scandalosa. Ferrara è un uomo che ha delle idee, fa opinione, ha delle idee e le esprime in televisione come tanti altri. Le stesse cose che scrive sul suo giornale le dice anche in televisione. Dov'è il problema? Non capisco. Mio avviso è eccessivo perché ma è eccessivo, ma ci sono tante altre persone. Perché lei non reputa eccessivo, per esempio, l'editoriale di Travaglio o altre cose? Per me non è eccessivo nemmeno quello. È l'opinione di Travaglio, come l'opinione di Santoro all'inizio della trasmissione, come l'opinione di tanti altri, c'è l'opinione di Ferrara, sì, non vedo dove sia il problema. Poi interviene la Russa, poi intervengono altri personaggi. Ma non è vero, guarda, non è quello così. Quello è uno spazio. Ho capito, è organizzato il format che è diverso. Il format è un editoriale di Ferrara, vuole contestare l'esistenza. Come c'era quello di Biagi prima. Non è, no, diciamo che aveva un taglio completamente diverso. Era giornalismo, era un servizio. Sì, ma costruendo una trasmissione, si esprime le proprie idee. Ma comunque, al di là di questo, qual è il problema di Ferrara? Non lo capisco. Sì, che è molto bravo come giornalista in spazi. Ma quello fa, ma quello fa. Ma quello fa, fa il giornalista, fa un editoriale ogni giorno. Dov'è il problema? Non lo capisco. Ma lei non trova differenze nell'atteggiamento di Ferrara quando lavora su Radio 24, in cui comunque fa. Quella era un'altra cosa, era un talk. Io aveva degli ospiti, questa è un'altra cosa, è un editoriale. Cos'è che la scandalizza? Non è d'accordo con Ferrara? Va benissimo, ma non capisco che cos'è che la scandalizza. Trovo che ci siano delle polemiche assurde. Poi lasciamo perdere come è arrivato, chi gli ha proposto questo spazio, eccetera. Ma come tante altre persone, nella televisione pubblica e altrove, esprime un'opinione. Punto e basta. Ci dobbiamo salutare. A domani! No, domani è sabato. È vero. A lunedì 18:30. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa... Non ti preoccupare.